Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a Ludico Forum, il programma che non avrebbe dovuto tornare, ma che ovviamente, come tutte le cose che non devono tornare in Runtime Radio, è tornato qui per voi e con voi. E questa è una puntata particolare, potrebbe essere l'inizio della seconda stagione, così come potrebbe anche essere una puntata così, basta, semplicemente per buttare un po' lì roba al fuoco, perché tanto ne stiamo facendo poche di live durante questo periodo, e quindi una cosa in più, una cosa in meno non cambia assolutamente niente. Benvenuti quindi su www.runtimeradio.it, ma questo lo sapete perché sicuramente in questo momento ci state ascoltando. Se volete interagire con noi andate su Telegram e scrivete dirette runtime, trovate nostra chat dove su tutti i programmi, tutte le situazioni, tutti i momenti della giornata potete tranquillamente interagire con noi. Vi ricordiamo che noi facciamo trasmissioni a partire dalle 7 del mattino come se fossimo una radio vera, ma non ci paga nessuno e questa è la cosa che rende stupido tutto ciò che facciamo, ma va bene, ci piace, siamo felici. Ragazzi, si torna a Ludico Forum con una puntata tutta dedicata a YouTube. Sapete che è una cosa che è un argomento che a me interessa moltissimo, cerco di esplorare molto questo aspetto legato a YouTube, lo streaming, Twitch, i videogiochi, tutto quello che alla fine diventa questa fase quasi cross-mediale, no, del videogioco. E lo abbiamo fatto già con diversi youtuber, di cui uno è qui con noi già anche questa sera, ma ve lo presento dopo perché per cavalleria giustamente vi presento prima Pixel Deb, anche detta Pixel Deb. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao e benvenuta. grazie mille, sono contentissima di essere qui, anche emozionata. Hai respirato, hai fatto respirazione prima di... Sì, sto respirando. Okay. Bene. E il nostro compagno di viaggio insieme a Deb per questa puntata, cioè Leonardo Alawin Tonna. Ciao Leonardo. Grazie Simo per l'invito, sempre un piacerissimo tornare su Runtime Radio. Tu sai che oramai c'è un feeling, noi ci stiamo simpatici a prescindere. Poi qui tutti romani qua stasera, quindi cominceranno a scrivere quelli di su che diranno ma che è la solita cosa, vabbè, poi romani. Voi sapete che Runtime Radio, lo studio centrale è qui a Monterotondo, però insomma non per questo significa che io sia di Monterotondo, lo voglio specificare questa cosa perché... È una cosa tutta mia personale. Allora ragazzi, parliamo di YouTube, abbiamo detto, però prima di parlare di YouTube, insomma, conosciamo un attimo anche dal punto di vista strettamente videoludico, insomma, i nostri due amici, no? In particolare partendo ovviamente da Deb, che io conosco perché seguo il suo canale da diverso tempo, devo dire, adesso non so quantificare quanto. Ho commentato rarissimamente, devo dire la verità, perché ma questo anche nel canale di Leo o tanti altri canali, io in generale non sono un grande commentatore, però sono rimasto particolarmente colpito sia dal genere, che lei prevalentemente parte dall'ambiente delle avventure grafiche, poi cercando di estendere un pochino, ultimamente esplora anche nuovi settori, e soprattutto perché comunque è simpatica, cioè a me mi fa ride, cioè devo dire la verità, non in senso negativo, però mi fa ride, cioè mi fa tagliare, cioè niente da fare, è una cosa che, perché poi nelle situazioni lei c'ha sempre la battuta, chiaramente il romano da questo punto di vista un po' aiuta, no? Cioè nel senso, tu come la vedi, scusami, sono un po' incartato su questa cosa, però il romano secondo me un po' aiuta da questo. Beh, aiuta molto il romano, perché come dico nelle cose i romani, secondo me rende meglio, capito? Cioè lo dici in italiano non rende bene, detto in romano c'ha quella marcia in più che colora il tutto. Sì, anche perché poi in effetti uno tende a dire, sai, c'era un canale molto simile al tuo, di una ragazza che si chiamava Moira Carter, credo, adesso non mi ricordo bene, Però lei era molto più composta, non fraintendermi, attenzione, perché poi quando si usano termini, cioè nel senso, ci teneva molto a essere molto forbita, molto accurata anche nel modo in cui parlava, no? Ed era carina sicuramente, però invece poi alla fine quando ti scappa la parolcetta, la cosa un po' così, no? Tipo, cioè, magari l'imprecazione sul fatto che il videogioco non fa quello che dovrebbe fare, o tu non sei riuscito a fare quello che dovresti fare, devo dire che poi alla fine la cosa risulta sempre più simpatica. A me mi viene, cioè, la spontaneità secondo me funziona sempre, ed è quello che poi facciamo qua in Runtime Radio, dove insomma non lesiniamo, diciamo così, un linguaggio. Sì, infatti, diciamo, io sono molto diretta, come hai ben potuto vedere, cioè mi comporto come mi comporto alla fine nella mia vita di tutti i giorni, non ci giro intorno, dico le cose come stanno, dico quello che penso e insomma sono un po' rozza, quello sì è vero. Però c'è da dire che mi diverto, la prendo in maniera molto goliardica, e quindi insomma la parte divertente è proprio quella, perché comunque condividere una passione con delle persone che hanno la stessa passione mia e divertirci insieme, insomma il motivo principale è quello. Beh sì, anche perché poi Leo, io penso che YouTube in qualche maniera, indipendentemente dal motivo per cui lo si fa, e poi dopo ci arriviamo, perché comunque chiaramente il tema della puntata verte proprio su quello, in realtà poi alla fine è una forma di spettacolo, no? Cioè nel senso tu stai facendo intrattenimento in quel momento, anche se la tua intenzione non è realmente quella di fare intrattenimento, cioè nel senso, no, ma io voglio mettere i video di gameplay su YouTube così perché mi va, no? Nel senso, però poi comunque tendi a commentare, a parlare, a interagire, perché comunque è intrattenimento. È un mix di tante cose, infatti è divertente anche per quello, no? Io lo dico sempre, c'è anche il customer care in mezzo, perché spesso ti capita il commento magari di qualcuno che ti chiede una cosa tecnica su semplicemente, che ne so, installare una mod, una traduzione di un gioco, anche roba che magari uno non calcolava come parte di YouTube, però è parte del tuo canale anche dare una mano magari a qualcuno a installare un gioco che non riesce, o cose magari che possono sembrare più fesse, quindi io insomma mi gestisco anche quello spesso e volentieri, anche con piacere. Poi anche io so schietto, come diceva giustamente Deb, quindi se un gioco è putrido, poi recentemente, se l'hai visto, tu sei seguito Dragon Age 2, avrai seguito la mia sofferenza immonda nel finirlo. Ed è bello interfacciarsi anche con chi ti segue, no? Sì, sì. Sul magari, già questa parte l'ho fatta anch'io, madonna, complimenti, sei riuscito a resistere fino alla fine, eccetera. Poi quella è parte del insomma, quello che comincio finisco. Però sì, ci sono tante sfaccettature belle di YouTube, anche di Twitch, insomma, della parte live. Bene, bene. Allora, prima di arrivare, io vorrei sapere, partendo ovviamente da Deb, su che cosa avete giocato per la prima volta, ossia PC, console, Mac o altro, qualsiasi cosa possa essere, e ovviamente qual era il gioco in questione, che hai memoria, di cui hai memoria. Guarda, io ho iniziato con l'Amiga 500, e è rimasta nel mio cuore, tuttora ce l'ho funzionante, no, per dai, me grande. È tipo un cimelio, sta lì, bellissima, meravigliosa, ogni tanto lo accendo, ci gioco e è sempre molto emozionante. Ho iniziato a giocare più o meno avevo 5 anni, e io ho una sorella di 10 anni più grande, abbiamo iniziato a giocare a Monkey Island 1 e lì è nato l'amore. Lei mi leggeva tutti i testi perché io non sapevo ancora leggere, e insieme abbiamo vissuto questa avventura, e da lì è nato l'amore per i videogiochi, per le avventure grafiche, per l'Amiga, per Monkey Island, tutto iniziato da lì. Perché poi Monkey Island c'è anche, cioè, essendo metatestuale un po' particolare, cioè nel senso, comunque è pure complicato, cioè fa ridere, ok, però magari è quella comicità che non è poi così immediata, a volte non è così semplice, quindi ecco, magari sì, vissuta da ragazzina, no, magari come te lo ricordi, perché più che altro, ecco. Ma io soprattutto mi ricordo il fatto che comunque mia sorella, leggendomi i testi, magari poi se c'era qualche pezzo che non capivo me lo spiegava, okay. Quindi ho avuto la fortuna di avere una sorella molto più grande di me che mi ha accompagnato un po' nel entrare nel gioco. E anche paziente. Anche paziente, molto, sì. Lei ha molta pazienza, io di meno. Però mi ricordo che comunque È stata proprio fantastico vivere l'avventura, cioè è stata veramente un'avventura nell'avventura alla fine, perché prima volta che mi affacciavo nel mondo dei videogiochi, io ho iniziato con un'avventura grafica, quindi uno di quei giochi dove appunto uno deve usare la testa, sì. Cioè non è il giochetto classico, insomma, dove uno comunque deve ragionare, capire l'enigma, come superarlo, quindi non lo so, forse è stato proprio quello a colpirmi e sono rimaste nel mio cuore le avventure grafiche tuttora, che rimangono il mio genere preferito in assoluto. Leo? Che io non ricordo le spec, perché ricordo che papà tornò dall'ufficio con un vecchio PC dell'ufficio, che ai tempi lavorava al CNR a Roma, all'Eur, wow. E sarà stato un qualche un compact presario, qualcosa sì, del sì. genere, un 486, non mi ricordo, e mi portò sti due floppy che gli aveva dato un suo collega, non c'era scritto nulla sopra, quindi è andato così alla cieca, insomma, io avevo 6 anni, una cosa del genere, insomma, mi dice premi sto tastone, metti il floppy, e uno era Prince of Persia, l'altro era Arkanoid. E c'ho un bellissimo ricordo nello specifico di Prince of Persia, che non ho mai finito, ho preso talmente tanti schiaffi, forse ero troppo piccolo, non lo capivo ancora e non sono mai riuscito a finirlo. È un gioco che dovrei emulare oggi e riuscire a finire, perché poi mi pare dura solo un'ora, no? Se non sbaglio. Sì, era tipico dei giochi di allora, quello di durare poco in run, però durare tantissimo, perché comunque voglio dire c'era proprio un timer, quello di sì dura un'ora, per salvare la principessa, comunque sempre solo perso, mai è vero. Prince of Persia poi tra l'altro era un classicone, ricordiamo tutto con l'animazione rotoscoping, insomma un giochetto che ha dato il via, ha dato la stura, come si dice dalle parti mie, a tantissimi altri giochi che hanno creato poi un genere. Devo dire che non conosco a memoria un PC dell'epoca che non ci avesse Prince of Persia da qualche parte installato nell'hard disk, insomma, quindi anche perché sa l'alternativa era o quello, c'erano altri tre giochi, no? Ce n'erano un po'. Sì, no, i giochi c'erano anche, però chiaramente rispetto, voglio dire, a quelle che erano le potenzialità magari di una console o di un'Amiga o via dicendo, poi piano piano il discorso si è invertito, no, negli anni. Però Prince of Persia e Arcano, Prince of Persia sì, in effetti mi ha fatto, io sono più vecchio, quindi vabbè, chi tra l'altro in chat salutiamo anche Walter Sbano che dice qualcuno ha detto Monkey Island, sì qualcuno ha detto Monkey Island, penso che io esatto. Tra l'altro mi ricordo una puntata provocatoria che facemmo qualche anno fa dal titolo Monkey Island c'è rotto il cazzo, no? perché poi in realtà, e questo un po' penso che Deb magari se ne sarà resa conto negli anni facendo anche i gameplay e via dicendo, il problema di Monkey Island non è soltanto di essere stato un gioco geniale, ma di aver creato milioni di emuli. E tanti giochi oggi si rifanno ancora a Monkey Island, creano l'ispirazione da Monkey Island, fanno la citazione di Monkey Island, fino a che alla fine, no, sta cosa insomma comincia a diventare anche un po'. È come quando, e questo io lo prendo, salutiamo Michele in chat, grazie di essere venuto, grazie a Gianluca, ammazza tutti voi siete venuti. E io per esempio, avendo bazzicato molto il mondo del cinema indipendente, ne ricordo che a tutti i festival dove mi è capitato anche magari di fare il giudice, c'era un periodo in cui da scuola di cinema tutti citavano Tarantino e alla fine il citare Tarantino diventa una copia, poi una scopiazzatura, non c'è, nel senso, nel tentare di citarlo nella maniera più fedele possibile alla fine distruggi anche la tua creatività, no? E la stessa cosa è successa secondo me a tantissime avventure grafiche dopo Monkey Island e ancora oggi è così, soprattutto quando io vedo l'avventura classica con, sento ancora quel suono reg sotto, mi innervosisco, è una cosa che però vabbè, questa è una cosa un po' tutta mia, non so cosa ne pensate voi di questo, Deb, magari. Ma guarda, in questo momento sto portando un'avventura del 2017, quindi comunque molto recente, che si chiama Darkestville Castle. Uh-huh. E cioè dal suono, dal tipo di disegno ricorda tantissimo Monkey Island 3, cioè la prima cosa che ho detto quando ho iniziato a giocare è mazza quanto riprende da Monkey Island 3, anche in maniera esagerata, cioè la musica di sottofondo sembra veramente uscita da Monkey Island 3 e anche i disegni, quelle nuvole un po' tondeggianti, sì, lo ricorda tantissimo, e infatti c'ha anche uno stile abbastanza comico tendente proprio a Monkey Island, quindi obiettivamente anche le avventure odierne, insomma, comunque uscite da poco, lo mettono sempre in mezzo. Questo è vero. Questo purtroppo poi alla fine è quello che poi tende a far, posso dire, mettere anche non in cattiva luce indirettamente, però insomma poi alla fine te la prendi più con col padre che col figlio, insomma, nel senso, vedi che alla fine Monkey Island ci ha rotto un po' i coglioni, insomma, e questo è un po' il... Leo, tu invece che ne pensi? Io ne ho giocati tanti quando ero piccolino, però sono quei giochi che ero troppo piccolo per capire ancora, e un po' come Prince of Persia, prendevo schiaffi, non capivo, non finivo, rosicavo, e poi alla fine l'ho provato un po' tutti, perché ho provato Broken Sword pure, uno che ho finito, che forse è l'unico, con l'aiuto di... della sorella di un vecchio fidanzato di mia sorella, guarda, vecchissima, era Sanitarium, non so se lo conoscete. Madre, al tempo non sapevo neanche l'inglese e l'abbiamo giocato in inglese e lei mi traduceva tutto quanto, infatti è stata Claudia, è stata un'anima via che mi ha spiegato tutto quanto, e quello è stato molto bello, però non mi sono mai avvicinato al genere e ne ho provati vari, tra cui uno abbastanza recente, si chiama Fahrenheit Indigo Prophecy, che sto un po' giochicchiando così con la mia ragazza, ma e non lo so, mi manca quell'action che c'ho bisogno, di soffrire. Se non soffro non riesco. Beh, sì, infatti le cose come Darkest Dungeon già... Infatti tu parti, cioè tu giochi in modalità sofferenza nei giochi, l'ho visto, insomma, oramai esatto, conosciuto così, e cose che io non farei solo sofferenza assolutamente mai. Allora, tornando da Deb, qual è il gioco, ovviamente in questo caso escludendo Monkey Island che ce l'hai già detto, qual è il gioco che avete amato di più nella vostra vita o che ha fatto accendere la vostra passione per il videogioco? Vabbè, diciamo che comunque sì, oltre a Monkey Island, che è stato il mio primo vero e grande amore, sicuramente Street Fighter 2, sempre sull'Amiga, ho fuso, anche se bisognava avere tanta pazienza perché bisognava cambiare i dischi ogni singolo combattimento, però fuso all'infinito, cioè capolavoro di sempre, c'è un lead Dalsim nel mio cuore. E è stato bellissimo. Poi vabbè, ovviamente anche altri classici, poi non soltanto su un'Amiga, ad esempio c'era mio zio, mi aveva regalato un Natale, è stato un Natale stupendo, il Sega Master System 2, sempre quando ero piccola, e lì Wonder Boy nel mio cuore assolutamente, ma anche Alex Kidd, cioè sono sempre stati grandissimi giochi. E poi un altro che secondo me conosciamo soltanto io, la mia famiglia, i creatori credo del gioco, che si chiama Dragon Crystal, che tempi fa ho portato anche sul canale, ma che è un gioco spettacolare, divertentissimo. Mai peccato sentito, non abbia avuto non abbia avuto tanto successo, perché comunque è molto molto divertente. Quindi diciamo ho spaziato per vari generi, poi comunque crescendo, poi che ne so, c'è stato un periodo della mia vita qui quando andavo più o meno verso il liceo, fine liceo, invece che ero fissata con Counter Strike, cioè giocavo, ero pure dentro un clan, giocavamo online a Counter Strike, il vecchio 1.6, tantissimo, il Source. Counter Strike Source. Quindi già era migliorato, non tiravi i thermos anziché le cose come nel era il Source, bellissimo. E lì mi sono divertita un sacco, quindi ho spaziato vari generi. Poi tra i miei giochi preferiti invece degli ultimi anni, sicuramente Skyrim, sicuramente The Witcher 3. Cioè quelli per me sono dei capolavori assoluti. Se no, altro genere, cambiando genere, un gioco del 97 se non sbaglio che adoro, Heroes of Might and Magic 3, e tuttora ci gioco, l'ho anche portato sul canale. Sì, l'ho visto, Quindi in verità spazio su vari generi, cioè avventure grafiche e puzzle game diciamo nel mio cuore, però poi gioco un po' a tutto, certo. Insomma, tranne quelli horror che un po' me la faccio sotto, però mi piacciono tanto. Però ci provi sempre, sì. No, devo dire, sì, ci provo. C'è Walter in chat che è d'accordo con te, lui non lo sa, ma io lo so perché... Che lui ha scritto Broken Sword, ho ancora l'orticaria per Bernard il logorroico, cioè nel senso che poi tu mi pare che sei quella che ha criticato un po' Broken Sword proprio per questa sua verbosità e poca sostanza poi. Sì, no. Allora io penso adesso molta gente mi odierà, ma io odio due avventure classiche, ossia Broken Sword, ma soprattutto Siberia. So che adesso la gente mi ucciderà in diretta. Ma il primo, Siberia? Siberia, mamma mia. Oltre che, scusate, posso essere sempre molto diretta, mi sono fatta veramente tante palle. È un po' lento, ma soprattutto, un po' lento, sì. soprattutto odio la protagonista, cioè il personaggio femminile più odioso della storia dei videogiochi, non riesco proprio a sopportarla, a digerirla. E stessa cosa Broken Sword, cioè Nicole Collar, che faccio molta fatica a sopportare. Beh, perché è francese più che altro. Sì, Nicole c'ha pure con questo doppiaggio con l'accent, con George, sì, tutto così. Sì, esatto. Oddio, il problema di Broken Sword secondo me è che è solo chiacchiere. Cioè chiacchiere. Io quando registro il video faccio un'ora di chiacchiere sono. Sì, sì, infatti, io sto lì così che sento le chiacchiere. Cioè, non, indirettamente hai trovato una persona che è d'accordo con te. E vabbè, che bella. Sul discorso della protagonista di Siberia, che poi tra l'altro l'avvocato, mo adesso non mi ricordo neanche come si chiama. Però, Kate Walker, però lì in realtà c'ha un senso il fatto che lei sia in quel modo, perché poi nei giochi successivi la storia è comunque la sua evoluzione verso da avvocatessa newyorkese stronzetta, poi alla fine lei comunque cambia, no? Si trasforma. Tra l'altro è anche interessante, però sì, effettivamente il primo Siberia, due coglioni, cioè bellissimo, mamma mia. Però è lento come un film russo degli anni 20, insomma, quindi. Esatto, concordo. Leo, il gioco che hai amato di più nella vita è quello che ha acceso la tua passione. Ah, però sono divisi in realtà, perché alla fine è arrivato dopo. Esatto, vai a raffica. Quello che mi ha infilato negli RPG, che quelli dell'età mia, sui 30 e qualcosa, generalmente sono quelli che amano gli RPG, diciamo, l'hanno cominciati ad apprezzare generalmente per Baldur's Gate. Io però non l'ho giocato fino a tempi recenti Baldur's Gate, e la prima cosa che ho giocato RPG era online ed era Dark Age of Camelot. Nel 2001, ero un bambino, andavo alle medie, il vecchio modem 56k, occupavo il telefono per loggare Expare, un disastro. E poi successivamente ho giocato a un po' tutti i vari Final Fantasy, e un altro gioco, probabilmente è quello stato quello che proprio mi ha fatto avvicinare agli RPG, è stato il primo Vampire, che era il Redemption, Vampire the Masquerade Redemption. Da lì poi ho continuato a giocarli fino ad arrivare a Dragon Age Origins, che secondo me è negli ultimi 15 anni probabilmente il miglior gioco e quello che ha invecchiato meglio di sempre. Poi boh, vabbè, ce ne abbiamo tanti, potrei fare una lista infinita, vari Elder Scrolls, Gothic, World of Warcraft anche, che comunque nonostante sia online è comunque un RPG, ce ne stanno proprio tanti. Bene, intanto si è accesa un po' il dibattito, insomma, sulla questione di Siberia. Poi c'è al 9000 che salutiamo, tra l'altro, e dice: pensa ai caricamenti sul Commodore 64, se passavi il livello, caricavi il livello successivo, morivi subito, toccava riavviare il nastro. Io non mi ricordo proprio così la situazione. Sì, che io sono partito dal VIC-20, quindi però vabbè, insomma, Kate Walker, Siberia, sì, bello, però lento, insomma, alla fine in effetti la sostanza è un po' quella, dai, siamo più o meno tutti quanti d'accordo, tranne Gianluca Sansò, che tra l'altro dice di conoscere Dragon Crystal, quindi vedi, hai trovato... Grande, grandissimo! Quindi alla fine lui ci giocava, insomma, quindi... E dice: non si tocca Broken Sword. Purtroppo Broken Sword si tocca anche, perché bisogna anche un po' dissacrare, no, questi giochi, no, che poi sembrano assolutamente intoccabili, le pietre miliari, poi in realtà li vediamo oggi con gli occhi di oggi, magari delle cose intoccabili, poi magari allora mi storcevamo la bocca, no? Cioè, molti di questi non ci hanno avuto neanche recensioni. Non so se vi ricordate, magari all'epoca in cui avete giocato un gioco che avete detto poi dopo con il passare del tempo avete visto che acquistava, che ne so, una sacralità. Non so se ci avete un'esperienza specifica, no? Deb, magari, Leo? Sto pensando, qualche gioco che ho rivalutato col tempo, non lo so onestamente, non mi vengono in mente, no, perché comunque io Broken Sword l'ho giocato quando ero piccola. Siberia l'ho recuperato un po' dopo, onestamente, ma è comunque uscito dopo Broken Sword, quindi già era un pochino più grande. E non mi sono piaciuti neanche all'epoca, insomma, quindi non mi erano piaciuti all'epoca. Adesso mi hanno detto: dai, portalo sul canale Broken Sword, portalo. Io, vabbè, perché fa convinta. Visualizzazioni, dai, Broken Sword. Mi hanno detto: portalo. Io non ero molto convinta, ho detto: siete sicuri? Mi hanno detto di sì, e vabbè. E quindi l'ho rigiocato da poco il primo. e sto più o meno a metà del secondo e non cambio idea, cioè penso che il gioco al momento che registro è che mi coinvolge di meno, onestamente. Non lo so. Bene, bene. Allora, riparto da sempre da te, poi Leo. Il vostro rapporto, sia da giovanissimi che attuale, con il giocare, però il giocare in senso più esteso, quindi a prescindere dal supporto, potrebbe anche essere un gioco di ruolo, un gioco cartaceo, un gioco di carte, un gioco da tavolo, quello che vogliamo, insomma. Deb. Guarda, io ho sempre giocato, cioè, è stata veramente una grande passione da sempre. E a Natale, tipico, mi facevo regalare dalle mie tre zie anche tre giochi da tavola. Mi ricorderò sempre un Natale stupendo. Sempre quando ero piccola, andavo sempre alle elementari. Da una zia mi ero fatta regalare Risico, da una zia mi ero fatta regalare Pictionary e dall'altra Tabù. È stato un Natale stupendo. No, poi Risico ha fatto finire l'amicizia, io. Sì, sono sì, testimoni di litigate a Risico, perché secondo me la gente si immedesima un po' troppo lì, trascende proprio. Ma sai cos'è? Il bello del gioco da tavolo è proprio il coinvolgimento, cioè io sono la persona poi che quando gioca, e chi gioca con me lo sa bene, vuole vincere, quindi cioè, non, sono molto combattiva, capito? E mi ci impegno tantissimo proprio per riuscire a vincere. Poi se non vinco fa niente, non è che so rosicare, insomma, l'importante è che ci siamo divertiti, però... E se vinci no, gioco, è là il trucco. Com'è? Dico, se vinci no, è là il trucco, se perdi che rosichi. Scusa, se perdo non rosico, ho sbagliato. E, però c'è da dire che sono molto competitiva, questo sì. Assolutamente, ma secondo me rende più divertente il giocare insieme, cioè se ognuno gioca e vogliamo se bene, capito? No, vabbè, non ti venga a dar fastidio perché sei amichetto mio, cioè non c'ha senso, capito? E invece no, cioè lì è guerra, cioè non c'è amicizia sul tavolo in quel momento. Ad esempio spesso gioco a Catan, i coloni di Catan, che mi piace tantissimo, è lì, intralci il territorio dell'altro, gli frighi la roba, cioè la partita. Ma il gioco deve essere competitivo, cioè se no... Sì, divertente così, se no non c'è gusto, insomma. Esatto. Perché a volte mi dicono, sei troppo competitiva, ma il bello è quello. Sì, se no che giochi a fare? No, ma è il motivo per cui secondo me Risico fa finire l'amicizia, perché Risico, al di là della competizione, subentra proprio questa cosa nella tua testa che veramente stai a conquistare il mondo. Allora ti senti, c'è un momento di onnipotenza in quel momento che insomma diventa fuori controllo. Io ho visto veramente gente litiga male, un capodanno distrutto, rovinato, proprio perché la ragazza di un nostro amico aveva sbloccato, proprio era impazzita, cioè il giorno dopo non parlava più a nessuno. Bene, complimenti. Leo, invece tu pure c'hai insomma un buon rapporto col gioco in generale, perché... Col gioco sì, con i giochi da tavola, guarda, ti dirò, ma più o meno, in realtà se capita con gli amici, però non sono mai stato un collezionista di giochi da tavolo, quindi fortunatamente da lì, da quel fronte sono riuscito a schivare la pallottola di perdere amicizie, poi ovviamente le perdiamo in altri modi, però col gioco sì, vabbè, sempre un buon rapporto, però sai che c'è, giocando tanto online, io pure sempre cercando di essere competitivo, ho avuto anche un rapporto... diverso con alcuni videogiochi, nel senso che alcuni di voi probabilmente sarà capitata la stessa cosa, c'è quel rapporto un po' del gioco che ti maltratta e che ci ritorni un po' come una fidanzata che ti tratta male, che però ti piace troppo, un po' tipo come succede con League of Legends, con alcuni FPS, che tu prendi schiaffi su schiaffi però continui a ritornare perché dici vabbè dai, la prossima andrà bene, e poi continui a prendere schiaffi, quindi il rapporto non è sempre positivo al 100%, però nonostante tutto ti diverte lo stesso e ti intrattiene, almeno quello insomma. Allora, stavo leggendo in chat, ascoltavo, però mi ferite perché è entrato Mauro, che giustamente specifica che è un follower di Deb, nonché avversario a Catan, e conferma tutto, quindi cioè, evidentemente proprio si deve essere ipercompetitiva, e Gianluca Schuren, sì Gianluca, Michele Schuren ci dice, a guerra è guerra, e sì, in effetti è assolutamente è così. Fico Catan, dice invece Gianluca Sansò, che io invece non conosco minimamente, quindi mi andrò assolutamente ad informare, mentre la gente mi tagga in altre chat come se non sapesse che sono in diretta. Bene, allora andiamo avanti e mo entriamo un po' più nel vivo, perché a me poi alla fine questa è la cosa che mi, cioè, mi interessa anche conoscervi, no? Per vedere che tipo di background uno può avere dietro, anche se poi possiamo sempre estenderla poi la conversazione anche su cose che vi vengono in mente a voi, perché magari ci avete delle domande da scambiarvi e magari poi posso subentrare anch'io. Però la cosa che mi interessa è sapere, perché poi appunto io vi conosco tramite YouTube, poi magari nel passare del tempo, soprattutto con Leo, poi sono nate anche altre conversazioni, cioè nel senso comunque anche scambio di informazioni, anche discutere proprio su un tema comune che può essere appunto quello anche del videogioco, no? Però appunto vi conosco tramite YouTube, quindi quando io penso a un ragazzo che inizia un percorso su YouTube, a prescindere da quali sono le sue motivazioni, perché poi ci arriviamo, mi viene sempre da pensare: qual è stato il primo video che uno ha realizzato e perché, soprattutto, che è la cosa che tutto sommato è la cosa che mi incuriosisce di più. Deb. Allora, guarda, io ho aperto il canale YouTube 2 anni e mezzo fa, più o meno, e l'ho aperto dopo che il mio ragazzo per anni è stato a dirmi: dai, apri un canale YouTube, dai, apri un canale YouTube, dai, che tu porti giochi particolari, ti piacciono, ti piace giocare, fallo. Prima lavoravo nel commercio, avevo poco tempo e non ero mai stata molto convinta della cosa. Invece 2 anni e mezzo fa dico: vabbè, proviamo. E ho portato proprio Sanitarium, che diceva prima anche lui, e niente, quindi ho fatto il primo video, dico vabbè, proviamo, insomma, e l'ho caricato poi, cioè è stato il mio primo video e l'ho caricato, e quindi ovviamente si vede che ero molto più impacciata, si vede OBS, l'audio molto discutibile, era una risoluzione molto bassa. 20 minuti era durato il video, però poi da lì l'ho portato tutto Sanitarium e piano piano ho iniziato ad avere i primi iscritti, e quindi da lì ho detto vabbè, quasi quasi allora si può fare, e alla fine è diventata una passione, cioè piano piano è diventata una passione, ormai fa parte del mio quotidiano, come sta diventando parte del mio quotidiano ormai anche fare le live, mi sto appassionando anche a quello. All'inizio ero sempre un po' preoccupata, insomma, dico oddio, e invece piano piano si sta creando anche un bel gruppetto nel canale, quindi è anche un modo per conoscere poi altre persone, condividere una passione, quindi è bello, insomma, sono contenta di averlo aperto questo canale, onestamente, mi dà molte soddisfazioni. Quindi, a differenza di tanti che il primo video l'hanno cassato, tu comunque l'hai caricato, e la motivazione è perché comunque ti hanno esortata, diciamo così. Tu magari di per te non l'avresti mai fatto, non era una cosa che entrava minimamente nell'anticamera del tuo cervello, insomma. No, assolutamente. Leo? Ma la mia è stata un po' una strada opposta, perché no, noi non ci conoscevamo quando io facevo Twitch. Ho cominciato facendo Twitch per un breve periodo. Sì, però chiaramente i turni inizialmente lo permettevano. Poi, cambiando lavoro, è diventato difficile essere costanti. Perché se c'è una cosa che mi piace di Twitch è quello che, insomma, cioè il riuscire a essere costanti, insomma, fare almeno 2-3 stream a settimana in un certo orario, perché chiaramente le persone si aspettano che tu ci sia in dei momenti specifici, e mi sono cominciato a spostare su YouTube perché mi dava quella flessibilità che Twitch purtroppo non mi dava. E vabbè, mo ve faccio volà. Il primo video in assoluto che io abbia mai postato era tutto il let's play di Doki Doki Literature Club, che è proprio l'ultima delle cose che uno si aspetterebbe dal mio canale, perché su Twitch giocavo principalmente Dark Souls. E poi da lì ho cominciato a fare gli RPG, perché gli RPG mi piacciono, sono la cosa che mi piace di più. Abbiamo fatto Baldur's Gate, Neverwinter Nights, e poi vabbè, quelli più visti li conosci, insomma, anche tu, sono i soliti Pillars of Eternity 1 e 2, Pathfinder Kingmaker, eccetera eccetera. Insomma, bene o male, se esce un RPG generalmente c'è specialmente se è difficile, c'è il mio let's play. Normalmente, diciamo, manca Solasta degli ultimi, ecco, poi ce l'abbiamo tutti, penso. Solasta, tra l'altro, vabbè, non è la puntata di parlare di Solasta. Che bello, eh? Perché, diciamo solo che è bello. Mi stava piacendo. Ho giocato solo la demo, ho acquistato il gioco, poi sono arrivati tanti montaggi e sono arrivate un periodo in cui Runtime veramente lo ricordiamo, insomma, per quelli che ci ascoltano, quando c'è stato il primo lockdown, noi che siamo una web radio poi fondamentalmente amatoriale, nonostante che facciamo podcast da tantissimo tempo, la cosa bella è aver preso quell'impegno che facevamo in quell'epoca di regalare almeno una live al giorno alle persone che stavano a casa e che comunque ci conoscevano tramite podcast, e si è creata poi questa community. Poi alla fine la cosa ha un po' preso la mano, perché a parte un periodo di stanchezza inevitabile per una cosa che comunque non è la tua professione, alla fine le live sono diventate tantissime, insomma, no? E questo fare live più costantemente, quasi con un impegno come se fosse una professione, un lavoro, alla fine mi ha completamente strappato dal mondo dei videogame, e oltretutto il fatto che stiamo poi realizzando tantissimi video, come appunto un mini documentario che uscirà a dicembre, non credo, forse a gennaio, su un meraviglioso, e ripeto, un meraviglioso museo dell'intrattenimento elettronico ad Avezzano. Ragazzi, credo abbastanza sicuro che sia un'esposizione unica nel mondo. Ci sono tra l'altro dei cabinati storici funzionanti ci sono soltanto là, assolutamente da andare a vedere. Se vi capita, ragazzi, andate ad Avezzano, per chi è nel Lazio, in Abruzzo e via dicendo, insomma, andateci, perché veramente ci vuole poco ad arrivarci, ovviamente, ma chi viene dal nord o dal sud, insomma, è un po' più complicato, ed è veramente veramente veramente una bellissima esperienza, oltre al fatto che comunque trovate della gente simpatica, un'esposizione di 1000 metri quadri, flipper, coin up, di tutto, veramente di tutto, con delle cose storiche veramente incredibili, a partire appunto dai giochi elettromeccanici, quindi neanche a dire, poi insomma dall'era del digitale, quindi insomma dai giochi a microprocessore, insomma, diciamo così. Quindi insomma, se vi capita, andateci. E dicevo, questo ulteriore impegno, lavoro con il canale di archeologia informatica, che su YouTube insomma sta crescendo tantissimo, ovviamente mi porta completamente via, però Solasta l'avevo preso, ho detto basta, mo ci gioco, non mi rompete i coglioni, è uscito fuori di tutto, e vabbè, insomma, niente, non riesco a giocare. Poi chiaramente un gioco, tempo te lo giochi fixato, dai, che tanto è ancora acerbo. Sì, sì. No lo so, però sai che c'è, poi il problema è che è un gioco come tutti i giochi di ruolo che richiede tempo, impegno, e io lo voglio giocare, devo trovare, tipo, che ne so, mi metto in malattia per un paio di mesi e via, insomma. Va bene, cosa avete pensato del vostro video, del vostro primo video, ce la facciamo in italiano, dopo averlo fatto? E questa è una cosa un po' che magari Deb ha già risposto, se l'avete poi pubblicato o se l'avete rimosso, però questo un po' l'abbiamo detto. Però ecco, mi interessa sapere che cosa, Deb, tu hai pensato, al di là del fatto che poi, come hai detto, l'hai pubblicato. Ma guarda, ho pensato forse di fare una brutta figura, perché sai, io sono sempre un po', sempre mi manca un po' il coraggio, non lo so, un po' la fiducia in me stessa, e quindi qualsiasi cosa faccio per la prima volta un po' mi agita. E quindi, dopo aver visto il video, ho detto: oddio, boh, sto a fare una brutta figura, secondo me. Anche perché poi, sentendo la mia voce, dico: oddio, che voce orrenda che c'ho. Che poi non è vero, quindi... Mo' detto fra noi. Anche se, anche no, se ti giuro, io tuttora. È fisiologico questo fatto, cioè, nel senso, di là sì, che magari le persone che parlano al microfono da tantissimi anni magari apprezzano o sono abituati, ma le persone che fanno questo esperimento per le prime volte, è fisiologico il fatto di sentire una voce diversa da quella che poi in realtà è, no? Perché noi abbiamo una percezione assolutamente diversa dalla nostra voce, chiaramente, insomma. Però no, ti assicuro che è una voce, grazie, piacevole, anche perché meno male, anche se, perché sennò mi sarei disiscritto, insomma. No, calcola, io la sento molto bassa, la mia voce, e infatti tutti mi hanno sempre detto: mamma mia, cioè, fai ululare i cani praticamente. Cioè, dice, c'hai degli acuti allucinanti. Io la sento bassa, e obiettivamente nei video sento che è abbastanza alta la mia voce, e che soprattutto posso veramente mettere il microfono a un metro di distanza e mi si sente uguale. Quindi sì, c'ho comunque una voce bella squillante, e io la sento bassa, quindi aver sentito bene la mia voce per un bel po' di minuti e soprattutto aver visto quanto ero impacciata, quanto non ero capace, insomma, dico oddio che sto facendo, però ho detto vabbè, io ci provo, poi vediamo come va. Alla fine uno ci deve provare a fare le cose, no? Sì, sì, però se tu lo riguardi oggi, che al di là del fatto che è impacciata, la voce non è, però insomma il pensiero a pensare all'origine, no? Al quando tu hai iniziato, no? Cioè nel senso ti può far un po' strano, avevi veramente un'altra intenzione, non, alla fine te ne fregava e non te ne fregava. Cioè, nel senso, che cosa... Ma, guarda, è capitato che l'ho messo e mi sono fatta un po' tenerezza, come per dire, oh, povera piccola, ma che stai a fare? Come tipo il trono del Muori, piccola! Cioè, capito, sì, cioè, ma che sta a fare, ma dove vai? Cioè, ma ritirate. Però alla fine dico, vabbè, dai, alla fine stavo divertente e sono contenta così, quindi... Mi fa tenerezza un po' per di mando vai, ma mi fa tenerezza anche per dire che è stato comunque un inizio di un qualcosa che mi sta dando tante soddisfazioni. Quindi è un bel ricordo alla fine, se lo rimetto e lo vedo, insomma, anche perché poi comunque rimane la Sanitarium una delle mie avventure grafiche preferite in assoluto, tuttora. Beh, quindi aver iniziato poi con quella che adoro, che viene subito dopo Monkey Island per me praticamente, cioè Monkey Island 2 in verità è il mio preferito e poi al secondo posto metto Sanitarium, e quindi aver comunque vedere che ho iniziato da una cosa che mi appassiona tanto è bello, insomma, mi fa un bel effetto alla fine, dai. Walter ci dice in chat, tutti noi crediamo di avere una brutta voce a riascoltarci, parla per te, io penso sempre di aver avuto una bella voce, l'unica cosa che sono sicuro è che comunque, quindi sono molto orgoglioso della mia voce, comunque confermo che la sua è una bella voce, quindi ti fai i complimenti anche Walter, vedi? Grazie, sì, grazie mille, hai trovato tanti fan questa sera, tutti fan. Che bello, grazie, sono contenta. Tra l'altro dovresti giocare a Planetscape Torment, perché pur essendo un gioco di ruolo vecchio stile, un po' diciamo tra virgolette alla Baldur's Gate, è un gioco prevalentemente basato sui dialoghi, sulla conversazione, e la storia evolve, a parte che è una storia meravigliosa, se dovesse capitare, insomma, te lo suggerisco, magari studiatelo un pochino. Leo. Va bene, grazie. Beh, questa è tosta, devo dire, però sai che stavo pensando a una cosa curiosa, no? Che quello, collegandomi a quello che diceva Deb, che prende anche bene in realtà riguardarsi il proprio primo video, perché ti riporta un po' coi piedi per terra, nel senso che vedi da un lato, insomma, quello come sei cresciuto a livello di come puoi impostare il discorso, come tieni una discussione anche live magari, o alla professionalità tra virgolette che puoi avere nel creare un tuo branding a livello di come saluti sempre nello stesso modo, certo, e tante altre cose, però da un lato ti riporta un po' sulla terra, perché dice Chicco stai tranquillo, c'è, cioè anche che c'hai 1 milione di iscritti, comunque ce ne hai avuti 10 un giorno, che non era tanti anni fa, ma era comunque, anche se fosse 10 è come se fosse l'altro ieri, e sei stato un fesso pure tu. E quindi da questo punto di vista penso che sia un bel, non solo un bel ricordo, ma anche un bel monito a ricordarti che comunque sei stato anche tu piccino, sei stato anche tu insicuro, magari impreciso, casuale nel montaggio, nel come parlavi, certo, tanto anche altre goffo, cose. Poi devo dire, c'è pure la goffaggine, esatto, la mia voce, no? Ho imparato a non mi dispiaceva più prima, adesso devo dire che a furia di sentirla montando i video bene o male, ma sì, a noi ci piace la nostra voce, così, che volete, a volte cazzeggio, la modifico anche, ne so, aggiungo bassi, alti, vedo come sarebbe. Un po' di pitch, modi abbassi, esatto, un po' il tono, esatto. Sono sì, io. Perché Premiere poi ti fa fare qualsiasi cosa, ma fai, certo, come Austin Powers quando gli chiede più basso, va bene così baby, no? Va bene così, quella parte è bellissima e va bene. Tra l'altro ecco, però la cosa bella è che rispetto adesso, indipendentemente quello che è l'adesso per te, no Leo? Però tu quando sei partito, cioè qual è stata la motivazione veramente che ti ha spinto? Ma allora, inizialmente... A parte che sei partito su Twitch, e già questo cambia. Dici YouTube? Io parlo di YouTube. YouTube, avendo fatto, poi è assurdo perché è pure un genere che io non faccio praticamente le avventure grafiche, però Doki Doki mi aveva convinto la mia ragazza dicendo guarda che carino, è mezzo horror eccetera, fino l'ho provato, effettivamente era un po' mezzo pauroso in certe parti, più io non ho mai sentito jump scare, così. Ma è strano, è anche gratis tra l'altro, su era, è stato un giochino Flavor of the Month per un periodo, perché insomma era un giochino che partiva come una mezza specie di storiella di ragazzi che, sai, quei classici giochi di scolaretti giapponesi che stanno lì, parlano, poi c'è la storia, vanno a fare, niente di particolare, un gioco qualsiasi tra virgolette, che però poi scade nella parte un po' horror, e quindi quella era la parte divertente, però tu non te l'aspettavi e non era neanche scritto nelle, sai che come si dice, Steam c'ha quelle targhettine sue, no, che ne so, RPG, azione eccetera, non c'era horror, quindi tu non lo sapevi fino a che non ci arrivavi che diventava un po' spaventoso il gioco. Quindi bel giochino, l'idea era nata perché lo volevo tradurre semplicemente. L'ho fatto live, traducendolo live, è stato divertente, poi la settimana dopo è uscita la traduzione ufficiale in italiano e quindi è stato tutto inutile. A quel punto poi mi sono buttato sugli RPG e abbiamo cominciato. Sì. Però è stato divertente. Doki Doki è un bel giochino simpatico, però dovete fare molta attenzione quando andate su Steam e cercate Doki Doki e questo genere di giochi, perché potrebbe sfuggirvi la mano sul gioco sbagliato, senza insomma andare nello specifico, però diciamo che Doki Doki c'ha, se clicchi male sulle cose consigliate succede un casino. Poi sì, perché poi l'FBI, sì, poi su Steam, cioè, se prendi un flusso è la fine, dell'FBI, cioè, in 5 minuti. Sì, quindi, sì, insomma, è vero. C'è stata della roba inquietante. Tra l'altro farò una puntata su questa questione di YouTube, perché era già prevista l'altro anno, perché se tu scansi il sottobosco c'è un mare di immondizia spaziale, proprio una cosa senza controllo, tra l'altro in uno store che dovrebbe quantomeno, non dico garantire la qualità in assoluto, però ci sono pure un sacco di frodi, c'è veramente un sacco di roba dentro, insomma, quindi no, vabbè, però questa cosa della traduzione poi tu ce l'hai sempre un po' avuta, perché mi ricordo che anche tu dai molte informazioni pure rispetto ai vari gruppi di traduzione amatoriale, che tra l'altro grazie ai quali tanti giochi sono stati resi disponibili anche per molti italiani che magari non hanno un buon rapporto con l'inglese, tra l'altro nei giochi di ruolo dove spesso il linguaggio è veramente articolato, è quasi letterario, insomma, oserei dire, quindi questa è una cosa che va a tuo merito. Invece, tornando da Deb, vorrei sapere quando piano piano, cioè nel senso piano piano probabilmente, o tutto ad un botto, non lo so, questo ce lo racconterai tu, hai iniziato a pubblicare con una maggiore regolarità fra virgolette, nel senso per quella che è la tua regolarità, e mentre iniziavi a dare questa regolarità qual era l'obiettivo che ti ponevi? Perché parlando con tanti ragazzi già il costruire una community con la quale interagire era tanto, invece magari c'erano persone che la facevano con una certa costanza proprio perché volevano arrivare a un determinato obiettivo. Ecco, qual è la tua storia? Ma guarda, io sarà un anno ormai più o meno che faccio uscire quasi un video al giorno, e ultimamente poi ho iniziato a fare anche più live, ne faccio due o anche tre alla settimana, sta diventando una costante anche la live onestamente ultimamente, e riesco a far uscire un video al giorno perché ad esempio ci sono dei giorni dove riesco a registrarne più di uno, quindi magari sono già pronti e ogni giorno ne faccio uscire uno alla volta, insomma, quindi magari sono dei giorni in cui non riesco a registrare, ma tanto sono coperta perché avevo già registrato, certo, in un altro momento, quindi me la gestisco così e alla fine riesco più o meno a fare uscire un video al giorno, quello sì. E poi ripeto, le live almeno due volte a settimana ormai sta diventando l'abitué. Ne faccio due la sera e uno pomeridiano, sai, dopo il pranzo del sabato o della domenica, capito, così per tenerci un po' di compagnia, e quindi adesso sta diventando una cosa quotidiana e onestamente quando non lo faccio mi manca, cioè ormai fa parte proprio della mia vita fare questi video, questi giochi insieme agli altri, e anche le live stanno facendo parte della mia vita. Quando non lo faccio mi mancano proprio. Ma perché? Perché siccome comunque io gioco sempre, cioè da sempre, quando ho il tempo libero spesso lo passo a giocare. Quindi a questo punto, tanto se il tempo libero ce l'ho, o che gioco per me o che lo registro e poi lo metto sul canale, lo condivido con gli altri, non è che cambia tanto, insomma. Cioè, tanto comunque io passerei così il tempo a giocare, perché è proprio una grande passione che ho da tutta la vita. Quindi a questo punto ho il tempo libero, mi metto a registrare, lo condivido, ed è un modo, insomma, per apprezzarlo di più alla fine. Perché ad esempio adesso in live ho riportato il primo Black Mirror che ho giocato tanti anni fa, che è un'altra avventura sempre che adoro, e avendola rigiocata insieme agli altri dopo tanti anni, cioè, l'ho apprezzata quasi di più, anche se mi sono resa conto che in alcune cose in verità è invecchiata male quindi avevo dei ricordi forse troppo belli, ma è invecchiata un po' male. Ma vivendola insieme poi ad altre persone che magari non la conoscevano, è stato bello poi ragionare insieme su quello che abbiamo capito, cosa ci ha coinvolto, cosa no. Quindi, non lo so, è proprio questa condivisione del gioco che secondo me lo rende ancora più bello. Cioè, una passione che già è bella così, in solitudine, diciamo, ma condivisa riesce a essere ancora più coinvolgente e bella, insomma. Forse per quello. Ok, no, perché magari uno fa... Qui esce fuori il lato maschilista del gamer, no? Quelli che dicono: ah, ma se fa YouTube, se sforza a giocare perché deve far canale YouTube. In realtà tu giocheresti a prescindere a quel punto. Sì, sì. A quel punto lo condividi con le persone, anche perché poi a volte, al di là delle live che sicuramente hanno un loro sapore, comunque il fatto anche di ricevere commenti, magari anche sul gruppo Telegram e via dicendo. Poi tra l'altro ricordo che, vabbè, a parte Leo che ha messo nella chat di Runtime sia il canale di Deb che il suo, lo metteremo anche nelle note dell'episodio quando uscirà in podcast, tra stasera e domani uscirà ovviamente l'episodio, e metteremo entrambi i link ovviamente nelle note dell'episodio per chi usa tutti i vari aggregatori podcast che esistono a disposizione. Come sapete ci sono le note testuali allegate ovviamente al file audio, e quindi la questione del divertimento mi soddisfa come tipo di spiegazione, però dopo poi ti vengo un attimo un po' più a stuzzicare cercando di estendere un po' di più questo tipo di discorso. Invece Leo, tu, ecco, da quando è che a un certo punto hai detto: vabbè, dai, sto diventando bravo, continuo a farlo, gli do una certa regolarità e gli do questa regolarità per questa ragione qui? Allora, dunque, diciamo che poi ho cambiato anche un po' il format, quelli ci vogliono ancora quei 99.000 iscritti. Lo faccio chiaramente per passione, lo faccio per una voglia di coprire una nicchia che in pochi coprono, e in pochi soprattutto coprono in Italia, con una certa... Esatto, anche con una certa sbatta o sbattimento di impararsi le regole e di giocarlo bene, perché a portare il let's play di Darkest Dungeon ti devi sbattere un po' a capire le meccaniche del gioco, a portare il let's play di Skyrim a Easy, insomma, è un attimo più facile. Non insulta la gente, però. Però ragazzi, se ve lo volete giocare, però se lo volete vedere giocato difficile è un altro paio di maniche, chiaramente. Però Skyrim a difficile, secondo me, bilanciato a epico, come Epic, leggendario la difficoltà più alta. Non lo so, non ne ho le più pallide idee. L'ho trovata un po' stupida leggendaria in realtà, perché Bethesda, per loro la difficoltà è aumentare gli HP dei nemici e farli diventare delle spugne, ma su quello magari ci si può fare una puntata a parte. Sì, vabbè. Però diciamo, è partito come il format che facevo prima, erano puntate da 30 minuti tagliate secche, poi è diventata un po' più morbida la cosa, un po' più rotonda, un po' come fa il buon Ciriola, no? Che è un po' che non lo sento io, ma insomma è stato ospite, mi ricordo che insomma una bella serata quella col Ciriola, e che credo che lui abbia quella puntata. Impegni lavorativi che lo occupano un po' di più di quanto eh sì Sì, sì, mi ricordo. E lui faceva proprio lo youtuber per fare lo youtuber, insomma, insomma. Quindi non faccio più la settimana, magari che esce la puntata da 30 minuti ogni giorno, ma magari te ne escono due o tre che sono, che ne so, 50 minuti, un'ora, perché magari cerco di chiudere un arco narrativo e vado dritto così. Però insomma, diciamo sì, 5-6 video, anche, 6, anche di più a settimana escono tranquillamente. E giocati al massimo della difficoltà e spiegati anche nel tentativo di, in parte a volte, tradurre giochi che magari in italiano non ci sono, per chi magari vorrebbe vederlo e vorrebbe capirlo, non capendo per forza l'inglese o altre lingue, e in parte anche il magari avere qualche consiglio su combattimenti o meccaniche che possono creare difficoltà in alcuni casi, perché chiaramente gioco sempre tutto al massimo della difficoltà. Quindi questa è parte del mio canale, insomma, la sofferenza. E a volte gioco anche giochi soffrendo che non voglio giocare, lo faccio. Dragon Age 2 non mi è piaciuto. Quindi seconda, doppia sofferenza. Ma perché è un gioco di merda? Però avevamo già parlato di questa cosa, che è un gioco di merda. Però... è terribile, allora, c'è delle belle cose, tipo ci sono dei bei fight con alcuni boss. Alcune cose ci hanno, se visto che c'erano quei 2-3 uffici con quei 5-6 developer che lavoravano forte. E poi dietro c'erano proprio i tizi di Electronic Arts, cioè, ragazzi, bisogna spicciarsi, qui ricovincollate ste texture e andiamo, vai, sto dungeon è fatto, a posto così. Un paio di cosine le hanno fatte così al volo e poi il gioco, diciamo, si vede che è un po' cotto e magnato, che l'hanno fatto al volo e sì, sì, no, vabbè, un po', cioè, la sofferenza. Ne avevamo già parlato, in effetti il dubbio... Non so se tu l'hai giocato tutto, sì, sì, però no, il finale sembra le avventure di JoJo, sembra. Ma certo, no, vabbè, diciamo che è un enorme DLC, che è un'espansione gigantesca, che hanno fatto diventare un gioco a sé stante. Comunque Mauro in chat mi chiede se hai giocato l'ultimo Torment. Tu, Leo? No, mi manca. Okay. Tides of Numenera l'ho visto, lo conosco, però non l'ho giocato. Gianluca dice, mi sembra proprio di sì. Che cazzo dici, Gianluca? Lo saprà meglio lui che è il canale suo. Vabbè, bello pure questa interazione così. No, manca. L'hai fatta tu quella cosa? Sì, sì, l'ha fatta. No, veramente non l'ho fatta. Adesso esce l'ultimo Dragon Age, con calma. Devo finire pure i Mass Effect, che l'ho interrotti perché non c'ho tempo. Insomma, cerchiamo di fare una cosa per volta. Mass Effect, ricordiamo che è la storia di un uomo che, nonostante che l'intera vita nella galassia è sull'orlo dell'estinzione, lui pensa a tacchinare qualsiasi essere vivente che gli passa davanti. Ed è la cosa più imbarazzante, soprattutto sul secondo. Tutti poi, in realtà, perché non fa neanche distinzione tra sesso, razza aliena o via dicendo. Insomma, grande, grande. Persona. Infatti, non c'è risposta quando ti scrivono nei commenti: ah, ma tu con chi pensi di fare il romance? Sì, è quella la risposta. Sì. C'è con tutti, esatto. visto anche scene imbarazzanti, tipo che ovviamente alcune cose non sai neanche come riprodurle. Insomma, comunque, ricordavo male, dice Gianluca. No, meno male che. Meno male, insomma, che dai ragione al proprietario del canale. Ma Leo, quindi, cioè, nel senso, ok, questo è il contesto, diciamo, il modo in cui tu hai fatto evolvere, anche perché tu magari facevi queste registrazioni due ore e poi le spezzettavi in quattro puntate, no? Magari adesso magari sei un po' più flessibile da questo punto di vista, anche perché poi secondo me il limite temporale è pure un problema relativo. Per chi segue un canale, magari nel modo in cui io seguo ad esempio il tuo canale, lo faccio con meno frenesia che magari si fa con persone che fanno uscire 3 video al giorno, ad esempio, no? Dove magari hanno quel format dei 20 minuti, perché poi la gente magari si spazientisce e perde la pazienza, ma lì rientriamo in un contesto di chi fa YouTube in un'altra maniera. Quindi alla fine, cioè, io se non finisco di vedere il tuo video o un video di Deb, so che comunque magari più tardi, quando c'è un'altra mezz'oretta, finisco di vederlo, o domani mattina, quando è, insomma, non è questo, insomma. Ma io devo ancora capire se tu hai di per te un obiettivo in tutta questa cosa, in questo, tra virgolette, lavoro, perché per quanto uno possa farlo nel tempo libero, no? Alla fine comunque è impegnativo, è sempre un impegno, tutto ciò che ci leva tempo è un impegno, che oppure comunque tempo che priviamo a cose magari più importanti o comunque alla famiglia o al lavoro, no, al lavoro magari no, però insomma, ecco questo che voglio capire, cioè, c'è un focus in tutto questo? Ma in realtà diciamo che l'obiettivo è un po' singolare la cosa, perché l'obiettivo è tipo non avere l'obiettivo. Mi spiego, nel senso che non è che mi aspetto di arricchirmi con YouTube, forse di farci, come diceva Ciriola, quello me lo ricorderò sempre perché la benzina. Una bella, esatto, un hobby che ti paga la benzina, sarebbe più che sufficiente, certo. Hai 1000 iscritti, ci siamo quasi, quindi YouTube prima o poi comincerà a pagarmi qualche goleador al mese e già quella sarà sicuramente un bel traguardo. E già lo è stato, sono stato contento che recentemente mi hanno dato la possibilità di fare i community post, che sono una cosa carina per interagire con la community aggiuntiva. Quindi in realtà, bene o male, non è che c'è proprio un obiettivo, perché da un certo punto di vista, secondo me, per questo genere di cose, se tu ti poni un obiettivo, specialmente, sai che si dice, no, bisogna puntare alle stelle, di qua di là, punti alle stelle, però poi fai un botto quando ti rendi conto che non ci si arriva alle stelle, che non caschi sulle nuvole, come si dice, caschi sui San Pietrini, ti fai male, poi chiudi il canale. Invece se lo fai con piacere, a prescindere da quello che poi ne viene fuori a livello di remunerativo, sei molto più contento. Cioè quello che a me che mi rende contento, magari il commento appunto che mi arriva ogni tanto dicendo bravo Ala, sono contento che fai sti let's play, sei l'unico che li porta bene sti giochi, sei l'unico che copre questo genere di cose eccetera, quello è quello che forse a cui punto, quindi fare felice l'audience, poi che siano 1000 persone o siano 100.000, se ho 100.000 meglio sicuramente, ovvio, insomma non mi nascondo dietro un dito perché sarebbe sciocco dire il contrario. Però insomma tra 1000 e 100.000 non, diciamo che non piango se ce n'ho 1000 o non chiudo il canale se ce n'ho 1000 o se ce n'ho meno di 1000, insomma, come non è successo negli ultimi anni, perché l'ho continuato a fare nonostante il canale cresca lentamente ma costantemente, lo continuerò a fare finché maregge la pompa, insomma, ecco. Beh, poi tu sei molto verticale, sei proprio ultra specializzato, quindi è un discorso pure. E devono tornare in voga gli RPG. Ma guarda, ultimamente mi sembra che c'è un buon richiamo. Comunque io adesso, per tutti e due, partendo da Deb, poi ovviamente a Leo, faccio un'osservazione mia personale proprio, e vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questa cosa qui, perché poi magari da chi si approccia nel contesto di YouTube, che magari alcune riflessioni possono avere un punto di vista diverso, no? Quindi da quello che posso avere io, che sono una persona che usufruisce, anche se poi nel meccanismo della produzione di contenuti ci sono sempre stato, no? Già questo che stiamo facendo, ma in realtà noi abbiamo fatto anche il canale YouTube di Dietrologia Videoludica, dove facevamo dei video, quindi tanto mi riguardo e rido da solo, però magari c'è 200 visualizzazioni, a parte Deadly Premonition, dove l'abbiamo insultato a tutto spiano e la gente veniva solo lì per insultarci perché non capite un cazzo, siete dei coglioni, e allora vabbè, quello era salito molto di visualizzazioni, no? Però comunque mi considero, per quanto riguarda YouTube, una persona, uno spettatore, quindi un utente che si iscrive ai canali e guarda ogni tanto quello che gli interessa personalmente, che quindi ovviamente è più appunto il canale di Leo o di Deb, che sono quelli magari che oppure altri canali simili o affini che comunque fanno quel tipo di contenuto, con quel tipo di ritmo, con quel tipo di riflessione, con quel tipo di attenzione anche, no, al contenuto stesso. Allora io penso che YouTube, per quanto sia, perché io vedo tantissima gente che dice no, ma io faccio per divertirmi, però poi in realtà sotto questa scintilla del fatto che con YouTube si possono fare i soldi, tra virgolette, e io ho un pensiero completamente opposto su questo, un po' secondo me affascina il ragazzo che magari si avvicina perché dice tanto io gioco, come diceva Deb, allora tanto vale che lo faccio su YouTube, perché poi non si sa mai, no? Nel senso, dovesse entrare un determinato meccanismo. Io penso che in realtà quelli che con questa logica riescono a raggiungere un certo tipo di obiettivo sono gli ultra rari, cioè le persone che comunque magari hanno una vocazione personale, un istinto tutto loro, comunque magari un carisma che magari è difficile da replicare, che secondo me sono veramente più unici che rari. perché secondo me invece per arrivare ad un obiettivo su YouTube, YouTube deve essere come tutte le professioni una professione, quindi gente che lavora 8 ore al giorno e dedica la propria giornata su YouTube, anche se produce video da 15 minuti, ma quei 15 minuti sono comunque il frutto di 8 ore di lavorazione, magari, dove comunque si fanno contatti, si producono video, appunto come diceva Deb, magari io ho dei video che mi avanzano in modo che sono coperto durante l'arco della settimana e via dicendo. Ecco, questo ci dice che molte persone che realmente arrivano a un determinato tipo di obiettivo sono persone che alla fine hanno dedicato la loro vita a quello e che hanno preso un anno sabbatico oppure non c'hanno un cazzo da fare perché poi capace benissimo e che dedicano praticamente il loro tempo a fare quello. Allora, voi come la vedete da questo punto di vista e qual è il vostro rapporto con quello che potrebbe diventare anche il vostro canale YouTube? Partiamo da Deb, ho fatto un discorso confuso, lo so, me lo immagino, però tu dentro la tua testa rielabora, di la cosa come ti pare a te e rispondi. Sì, no, guarda, ovviamente il pensiero monetizzazione penso vada a tutti, cioè penso sia ipocrita a dire no, non ci ho mai pensato. Però ti posso dire che insomma io con questo canale da 2 anni e mezzo sto a 250 iscritti, quindi pensare alla monetizzazione mi fa un po' ridere anche, capito? Perché sì, nelle ipotesi più rose magari un giorno, chissà, però posso anche dirti che è difficile. Quindi l'obiettivo onesto sarebbe un giorno magari, ecco, arrotondare con YouTube, quindi come diceva prima anche Leo, pagare benzina, cioè che ne so, queste cose qui, capito? Un arrotondamento ovviamente non potrebbe essere il mio lavoro normale, insomma, non, no. Scusate, adesso io sto studiando all'università e quindi mi sto dedicando allo studio e ai video. Ho tempo per fare i video, certo, ho tempo per fare le live adesso. Prima, quando lavoravo nel commercio, non avrei avuto tutto questo tempo per farlo. Quindi studiando ho la possibilità di fare anche questa cosa che mi piace. Ma il mio obiettivo sarà trovare un lavoro con, spero, quello con cui mi laureerò. E se riuscirò poi a continuare a portare avanti il canale, magari un giorno, ripeto, un arrotondamento assolutamente, ma sicuramente no, non penso potrò vivere con YouTube, non mai pensato e mai lo penserò, credo, anche perché cioè, i numeri comunque parlano, cioè sono 250 iscritti in 2 anni e mezzo, quindi non, cioè, sarebbe un po' un'utopia pensare di poter mandare avanti una famiglia con in questo no, modo, certo, capito? Certo, cioè, certo, non, certo. Sarebbe un po' utopia, capito? Cioè, nel senso, sì, sarebbe bello perché, oh, mazza, faccio una cosa che mi diverte. Ci posso pure mandare avanti una famiglia, ho trovato l'America, no? Però poi uno dice, no, vabbè, quella è l'utopia. La cosa che forse un giorno potrò arrivare è arrotondare. Quindi sarebbe un interessante arrotondamento, non lo nego, insomma. Ma è sempre molto ipotetico anche questo, quindi più che altro è un divertimento, cioè per me è un divertimento. Anche poi, se un giorno verrà qualcosa, io non è che ci sputo sopra. No, beh, certo, però no, che schifo, no, viene da YouTube non lo voglio, certo, è chiaro. Esatto. No, anche perché qui il problema secondo me è un po' il miraggio, no, che crea Google su questo tipo di discorso, anche perché ci mette davanti tutti quelli che in qualche maniera ce l'hanno fatta e va bene, noi siamo tutti un po' più grandicelli, no? Io molto più di voi, però in generale comunque il ragazzetto viene comunque sempre un po' ammaliato, no? Da questa cosa qui, dal fatto che c'è la possibilità di fare una cosa che ti diverte e che ti può portare una professione, senza rendersi conto che anche tanti youtuber che hanno comunque un buon bacino d'utenza e una buona costanza di visualizzazioni alla fine non arrivano a fare lo stipendio, perché comunque la vera monetizzazione la fanno quelli che hanno poi dietro anche uno staff dietro, quindi quelli che fanno entrare veramente i soldi, no? Però al di là di questo, in realtà, cioè, il fatto di entrare all'interno di un meccanismo anche funzionale, ossia come te Deb, fare pubblicazioni più costanti, dare anche un timing magari alle puntate, mettere dei tag ben indirizzati, comunque anche specificare il gioco all'interno del meccanismo di YouTube, che poi YouTube mette magari la mini scheda pure del gioco, roba del genere. Comunque in qualche maniera alla fine un risultato lo porta, e poi il risultato lo porta anche esponenzialmente, cioè a un certo punto passi, ci metti tanto a passare da 100 a 200, ma poi improvvisamente magari arrivi a 600 e 1000 e magari ci hai messo soltanto 3 mesi per arrivarci, no? Perché poi il meccanismo del flusso YouTube è ancora un po' un mistero, no? Però quello che voglio capire è se Leo, per esempio, questo gioco, no, al voler essere uno YouTuber ti appartiene, cioè nel senso proprio come anche culturalmente, oppure ecco, ritorniamo al discorso della, solo ed esclusivamente al discorso della benzina, ma magari sì, insomma. No, ma in realtà io mi sento un po' anti-eroe in questo, perché oggi viviamo, in realtà uno potrebbe farci 3 puntate su questa faccenda, perché viviamo un po' in una situazione sociale in cui siamo tutti quanti influencer di qualcosa, chi lo è su Facebook, chi su YouTube, chi su TikTok. È una situazione in cui il nostro telefono, i nostri PC cercano di, in un modo o nell'altro, di farci essere tutti famosi. Quindi bene o male per 15 minuti siamo, però, tutti attirati. Magari chi 5, chi 15, chi una vita, insomma, c'è chi ci riesce più o meno, però bene o male è raro che incontri gente oggi magari che ha TikTok e non ha almeno un video che non sia andato viral, o una foto su Instagram o quello che sia. Quindi da questo punto di vista siamo un po' tutti quanti abbocchiamo a quest'esca Del voler essere famosi. Quindi qua viene la cosa dell'antieroe, cioè io voglio cercare di diventarlo, no, non facendolo praticamente, nel senso che non mi interessa diventare un canale gigantesco. Se succede, chiaramente ben venga, però non punto a quello, e so benissimo che porto un certo tipo di contenuti, e che se dovessi decidere di confrontarmi con YouTube in maniera differente dovrei ricominciare da capo. Quindi chiaramente quelle 800 persone le perderei, 1000 persone quante saranno, magari tra altro tempo raggiungeranno le 5-10 mila, chi lo sa, come dico sempre nei video, no? Perché più siamo meglio è. Ma chiaramente cioè, non mi voglio vendere, ecco, insomma. Quindi c'è chi lo fa per tra virgolette fa il venduto, ma in realtà non è vero, lo fa per, insomma, per cercare di creare una svolta lavorativa, e quindi crea contenuti che siano in linea con qualcosa che vende. E chi invece fa l'antieroe e cerca di creare un contenuto di un certo tipo a prescindere da quante persone ci sono. Poi se arrivano le persone è meglio, però in generale mantenere una propria identità, insomma, in un mondo che cerca di farti vendere il più possibile. Questo è un po' l'obiettivo del mio canale, quindi non sminuire mai, non perdere mai la retta via. Questo è un punto fondamentale, lo sai, perché infatti torno un po' da Deb, in realtà poi è un discorso che noi come Runtime Radio facciamo da tantissimi anni, perché se tu sei l'antieroe su YouTube, noi siamo l'antiradio fondamentalmente, siamo anche l'antipodcast. Noi abbiamo partecipato rarissimamente, e non lo facciamo praticamente quasi mai, ad eventi e manifestazioni dove tutti in realtà diventano un po', fanno tutti self-branding, no? Diventano tutti i protagonisti dei loro stessi, no? E salgono su questi palchi dove fanno i panel e dicono siete meravigliosi, e io dico sempre siete meravigliosi, chi vi conosce, cioè nel senso chi siete, se interagite con me è un discorso, no? Se no, non perché siete un pubblico allora siete meravigliosi a prescindere, no? Questo è un po' secondo me il punto focale del modo in cui a volte si fanno le cose, si decide di fare le cose. Quando noi prima di Ludico Forum facevamo un altro programma, si chiamava Videoludica, Fuori dalla cricca e orgogliosi di esserlo, era proprio un principio, no? Cioè, nel senso, sapevo che alla fine era un vezzo anche, no? Cioè, anche un po' strafottente, un po'. Però il principio è che mentre molti altri podcast che parlavano di videogiochi cercavano di come posso dire, di interagire con lo sviluppatore, con la casa software, entrare un po' nel meccanismo, un po' a parlare. A noi di questo fondamentalmente non ce n'è mai fregato più di tanto, no? E secondo me la cosa che tu hai detto in questo momento, Leo, e che giro subito a Deb, è proprio questo: il fatto che per arrivare a determinati risultati devi un po' denaturare quello che tu fai, cioè lo devi rendere più compatibile a uno standard di audience, no? Dove l'audience è comunque magari molto più giovane e dove richiede determinati contenuti. A quel punto, ok, la benzina, siamo d'accordo, su questo siamo assolutamente d'accordo, però ne vale la pena? Cioè perdere il divertimento con il quale uno sta facendo una cosa che la fa, perché comunque per lui in quel momento è un hobby, come dici te giustamente, Deb, io gioco comunque, allora a questo punto lo faccio in questa maniera qui. Però appunto, cioè, vale la pena perdere un po' della tua indipendenza, della tua naturalezza e del tuo modo di essere in virtù del fatto che poi questa cosa ti deve pagare la benzina? Guarda, io sono una persona, come ti dicevo prima, molto diretta e mi comporto come mi vedi sul canale, mi comporto nella vita di tutti i giorni con le persone, quindi io difficilmente riesco a comportarmi come non sono, oltre perché si vede da 10 km che sto facendo la falsa, perché non ci riesco proprio, e in più non mi verrebbe naturale, quindi io non credo che riuscirei ad adattarmi al, diciamo, tra virgolette, youtuber medio per poter puntare in alto, cioè non ci riuscirei mai, anche perché dovrei portare quel tipo di gioco che a me non piace, cioè io porto dei giochi che spesso porto soltanto io in italiano, tante volte sono giochi che non sono neanche tradotti, mi metto a tradurre io col mio inglese un po' maccheronico, e quindi sono dei giochi che magari conosco sempre io e lo sviluppatore, insomma, cioè non... titoli che non sono molto famosi, e non riuscirei neanche a comportarmi nei modi classici da youtuber, diciamo. Io il mio modo di fare e non riuscirei mai a cambiarlo, onestamente, cioè non riuscirei a diventare un'altra persona per arrivare a pagare la benzina. Cioè, se mai dovrò arrivare a pagare la benzina, deve essere per come sono io, cioè nel senso, se le persone apprezzano il mio modo di giocare, di condividere, di soprattutto scherzare, perché alla fine sempre in maniera molto goliardica, ripeto, faccio le cose, va bene, si può creare anche un modo per creare delle amicizie, cioè io spesso ho avuto amicizie, ma anche il ragazzo con cui sto adesso l'ho conosciuto sempre su internet, in verità, quindi cioè è un modo anche per creare dei rapporti. A me i rapporti piace crearli comunque veri, che certo, siano sia a 2 metri di distanza o a 400 km di distanza, non è che mi fa niente di differenza, non mi cambia molto. E quindi se dovessi iniziare a essere diversa da come sono io realmente, mi toglierei anche l'occasione di poter conoscere o di avere dei rapporti con delle belle persone con le quali condividere questa passione. Quindi onestamente, per come sono fatta io, cioè non cambierei il mio modo di giocare, okay, di vivere le cose per la benzina, insomma. Perfetto, alla fine siamo un bel trio di antieroi questa sera. Abbiamo, esatto, fatto, è vero, okay, è vero. Le pecore nere. C'è Mau... Se famo l'ibrido con l'eco bonus piuttosto che cambiare, no? Esatto, se proprio bisogna, esatto, risparmiare. Comunque Mauro in chat dice una cosa interessante, per sapere la vostra opinione, perché lui dice: YouTube può essere anche un modo per imparare cose tipo montaggio, audio, grafica, che se no non imparerebbe, e che alla fine sono delle skill, giustamente, possono diventare delle skill, cioè comunque diventano delle competenze. Che ne pensate? Ma chi inizia? Io? Come te pare, inizia tu giustamente. Sì, sì. Ma guarda, io ad esempio proprio con l'inglese, a furia di stare a tradurre tantissimi giochi dall'inglese all'italiano in maniera diretta, cioè lo faccio come se stessi facendo una traduzione simultanea, con questo gioco lo traduco per far capire agli altri che sto leggendo, cioè il mio inglese nell'ultimo anno è migliorato molto, Quindi posso dire che tramite questa cosa di YouTube la mia traduzione simultanea è sempre più facile da fare, cioè faccio sempre meno fatica, a meno che ovviamente a volte ci sono delle parole che dici ma che è inglese questo, che rimani perplesso, oppure tipo Strangeland aveva un inglese di un livello superiore perché era molto psicologico come gioco. E avendo un inglese molto superiore, non diciamo quello classico che si capisce abbastanza, lì dovevo mettere pausa, guardare su Word Reference il significato della parola e cercare di dare un significato alla frase, quindi lì ho fatto più fatica. Però ecco, posso dire che a furia di fare questa cosa sicuramente sta aumentando il mio livello di inglese nella traduzione simultanea e nella conoscenza delle parole, quindi a me aiuta molto nelle lingue, onestamente, cioè un modo per allenare quotidianamente il mio inglese, che nel mondo del lavoro è assolutamente fondamentale. Nella parte tecnica faccio un po' schifo, infatti ho il mio ragazzo e ci pensa lui. No. Sono un po' capra nella parte tecnica. No, però. E ci pensa lui. Tra l'altro io ti consiglio Disco Elysium, che lì l'inglese è veramente... Ah, Disco Elysium l'ho provato proprio con Mauro, il ragazzo che sta scrivendo in chat. E l'abbiamo giocato per conto nostro, insomma, e anche lì quello c'ha un inglese quello è tosto. Non è un inglese fattibilissimo, quindi stare a portarlo sul canale, che è uno, è un gioco lunghissimo, cioè penso ci metterei una vita, e in più tradurre quell'inglese di livello superiore sicuramente diventerebbe un po' un'odissea, quindi al momento no. Vedremo. Pensa che mentre che parlavi mi stava venendo in mente una cosa intelligente da dire e ovviamente me la sono dimenticata, quindi non era così intelligente. E vabbè, magari mo ti torna. Ma sì, no, però nel discorso che stavi facendo mi volevo riagganciare, però giustamente non volevo interromperti, però purtroppo questo succede a... comunque. Ah no, ecco che cosa. Vedi che mi è venuto, brava. Che alla fine tu dici, io comunque nel videogiocare mi sono sforzata comunque anche di aumentare la qualità del mio inglese, no? Beh, questa cosa ai miei tempi, che succedeva con le cassette delle canzoni in inglese. Cioè praticamente i ragazzi, le ragazze in particolare, imparavano molto l'inglese traducendo ovviamente i testi delle canzoni, che quando le traducevi dice ammazzezzo, se era meglio soltanto l'inglese, sì. Perché non so se vi è mai capitato, insomma, ma veramente sì. Le canzoni inglesi sono veramente terrificanti, però sì, era un modo per tenere allenato, imparare anche l'inglese, imparare la pronuncia, quello del cantare tramite le cassette, chiaramente, che era comunque una cosa carina, perché in qualche maniera aiutava. Poi certo ci stavano quelli che non gliene fregava niente, infatti quelli della mia generazione il rapporto, diciamo, con l'inglese è sempre stato molto molto relativo. E invece tu, Leo, che ne pensi di questa cosa, il fatto che comunque indipendentemente dal risultato che ottieni su YouTube ti impara delle skill? Vabbè, diciamo che uno poi chiaramente quando sei, poi vabbè, io lo dico sempre a un amico, ma sei youtuber? Dico vabbè, più o meno, non mi ci sento proprio, chiaramente oltre che essere qualcuno che crea contenuti, sei anche uno che li segue i contenuti, quindi guardi tanti canali, ci vivi un pochino su YouTube, e chiaramente quello che so fare su Premiere lo so fare grazie ai tutorial sul tubo, quello che so fare con Photoshop uguale, tante altre cose comunque sia, insomma, tante altre anche a livello linguistico comunque sia, sì. Io vabbè, l'ho studiato all'università l'inglese, anche lo spagnolo, però altre lingue le ho approfondite grazie a YouTube, anche faccende culturali. Chiaramente YouTube è una enorme piattaforma piena di un sacco di cose interessanti che ti possono insegnare, anche una fogna piena di spazzatura, se dobbiamo mettere tutti quanti i puntini sulle i. Però sì, chiaramente si impara tanto sia che tu sia un content creator che tu non lo sia, insomma, c'è posto, bisogna andare a guardare nei posti giusti e cercare quello che ti interessa, insomma, senza divagare random, perché se divaghi random su YouTube dopo 2 ore ti ritrovi in posti dove non volevi finire. Dai, video strano. E comunque ritorniamo a quella, vero, alla cosa di Steam di prima, insomma. È vero, cliccando random finisci in dei posti video, che ne so, dei lama che non lo so, cose strane che non, sì, hanno senso, sì. Però lo vedi, dici vabbè dai, adesso ormai sono finito sul video dei lama che fanno versi, vediamoci sti 5 minuti di lama. Però insomma, mai cliccare a caso. No, no, vabbè. O mai seguire il flusso delle tendenze, perché se parte con quello che fa la stronzata e si finisce a guardare ore e ore dei gattini che miagolano, insomma, quindi questo è vero. Sì. Tra l'altro, così non c'entra niente, però traducendo al volo dall'inglese, Unity spende 1.650 milioni di dollari per acquisire lo studio di visual effect del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Me coglioni, così. Ma Unity ha deciso di spendere tutti questi soldi. Ma dove ce l'ha Unity tutti questi soldi? Scusa, non ero un programma free e open source. Va bene, interessante comunque. E si vede che usciranno tanti bellissimi videogiochi in Unity nei prossimi anni, insomma, facendo concorrenza chiaramente a Real Engine, nel quale mi sto cimentando con il 5 per provare a fare delle piccole animazioni. L'obiettivo è di arrivare a realizzare un cortometraggio nei prossimi 2 anni. Vediamo che cosa succede, ma io sono, nonostante il fatto che diciamo lascia stare, ma basta, no, fa cose, no, a me piace fare cose, quindi va bene ragazzi. Io direi che è stata interessante questa conversazione, la considero una sorta di abbozzo, diciamo di introduzione, magari fra qualche settimana, se volete, ci ripizzichiamo e cerchiamo di estendere un pochino anche nel parlare un po' più nel dettaglio anche dei specifici canali, anche se con Leo l'abbiamo già fatto, però mi fa piacere comunque rifarlo e magari farlo anche con Deb, perché comunque il modo in cui lei approccia il gameplay, secondo me, anche come abbiamo detto, estendendo anche a giochi che, cioè, io l'ho conosciuta con le avventure grafiche, ma in realtà poi ho scoperto, andando piano piano avanti, insomma, che va oltre anche questo tipo di discorso, anche se penso che il fattore narrativo, Deb, insomma, sia sempre abbastanza importante, perché vedo che sono sempre storie quelle che fanno. Avventure, sì, soprattutto avventure. Poi ultimamente mi sono fissata con Lovecraft, comunque c'è Lovecraft. Sì, sì, non so, io è una cosa, io c'ho questo problema con Lovecraft e Monkey Island, per me è un problema adesso, perché venendo dall'epoca in cui uscivano solo cose su Monkey Island e solo cose su Lovecraft, come appunto tu hai fatto il primo Alone in the Dark, ha dato la stura a una serie di giochi. Prima non lo conosceva nessuno Lovecraft nel mondo dei videogiochi, nessuno sapeva che c'era questo autore horror, insomma, che gli grandi antichi e via dicendo. E da lì Cthulhu alla manetta, cioè nel senso, saranno 30 anni, quando è uscito quel gioco? Manco me lo ricordo, 25-30 anni? Era del 90, che era 92, mi sa, il primo Alone in the Dark, okay. Una poi, cosa simile, che poi, cioè, nel senso, è un altro di quei giochi che dura 5 minuti, soltanto che è il tempo che ci metti a imparare le cose che devi fare, veramente ci passi i mesi praticamente. Sì, no, la sera di Halloween stavamo impazzendo. Beh, io stavo vedendo la prima googlata conferma, La googlata conferma, sì, 1992. Ah, sì, 92. Alla fine, insomma. Che poi, tra l'altro, io stavo vedendo la vostra live, anche se l'ho vista in differita, e voi siete impazziti moltissimo sulla prima scena, quella della soffitta, fondamentalmente, no? Quando arriva quel simil dinosauro che abbiamo chiamato Dodode. Esatto, brava. L'albero azzurro. Sembra un po' Dodò, in effetti. E forse i colori sono diversi, però diciamo che, sì, che quella è la scena, cioè il primo punto di quel gioco era il più... Perché se non lo sapevi, cioè nel senso, poi ci arrivi, magari. Però a me me l'hanno dovuto dire, guarda, devi mettere la cosa davanti, che così non entra da... Capito? Cioè, nel senso, alla fine è sempre stato un po'... Ma anche perché all'epoca non c'era il tutorial, no? Quindi, no. Boh, che devo fare? Che devo cliccare? Ma come si fa? Cioè, non si capiva niente. Guarda, io lo racconto spesso. Io, all'epoca, aspettavi che usciva il K o il The Game Machine del mese successivo, sperando che ci fosse la soluzione, se no la soluzione la trovavi il mese successivo ancora. Ma in particolare quelli di K avevano un giorno a settimana che tu potevi telefonare dalle 14 alle 16 e si riuscivi a prendere la linea, gli chiedevi: guarda, io a questo gioco qua sono bloccato a questa cosa qui, e loro ti davano la soluzione. Soltanto che all'epoca esisteva ancora un concetto che molti ragazzi di questa generazione non conoscono, quello dell'interurbana. Ossia, praticamente, per non avere problemi a casa che rompevano le balle, prendevo tutti gli spicci che c'avevo, andavo sotto la metropolitana di San Giovanni, c'erano le cabine telefoniche, mettevo tutte le monete, telefonavo al numero di Milano, perché stavano a Milano, che già come rispondo: pronto, tutum, tutum, tutum, queste monete che scendevano. Senti, a King's Quest, io sono rimasto bloccato a questo punto qui. Ah sì, devi fare tutto, tutto. Ma vaffanculo, cioè, e alla fine questo era, insomma, il destino del fatto che tu non avresti mai dovuto sapere la cosa, perché erano finite le monete, insomma. Quindi oggi il mondo è meraviglioso. Quindi tutti quelli dicono: ma prima se stava meglio. Ma di che, insomma, non so se vi è mai capitata una cosa di dover aspettare perché non trovavate una soluzione a un qualcosa quando eravate magari. Sì, con... sì, ho voglia. Più sui giornali, io mi ricordo, uscivano i vecchi TGM, questi qua, e sì, cercavi sì. Le soluzioni, se no la soluzione era il compagno di classe che aveva finito l'amico, il gioco. Sì, è vero. Non c'era modo. Comunque mi avete spiazzato questo Alone in the Dark, il primo. Io pensavo che il primo in realtà fosse quello che uscì poi per PlayStation, no. Che già era un po' più, insomma, diciamo che il pupazzo era un pupazzo. No, visto soltanto triangoli. Ho visto quello prima ed era effettivamente sì, c'erano un po' di poligoni lanciati lì e poi quelli coloravano. La cosa ridicola, in realtà io questa cosa me la so posta anche all'epoca, no? Perché devo dire che tutto sommato faceva paura per gli effetti sonori. Voi dovete contestualizzare, no? In un'epoca in cui non eravamo abituati a tanta multimedialità, no? Cioè, quindi alla fine il gioco sì, c'aveva i suoni e tutto quanto. Però se tu ci pensi, Alone in the Dark, vedevi questo accrocco di poligoni vettoriali buttati così a casaccio, come diceva appunto Leo, vestito de merda poi tra l'altro, perché c'era sta giacca verde con sottogiacca verde più chiaro, mi pare, mo vado a casaccio, con dei pantaloni grigi e lui roscio con sti occhi giganteschi che camminava, che sembravano lui lo zombie piuttosto che l'altro, no? E dicevi: ma come te può far paura una cosa del genere? Cioè, nel senso... Eppure allora era una cosa veneristica, perché era l'introduzione del 3D in maniera massiccia all'interno di un videogioco che aveva questa aspirazione cinematografica, no? Col fatto che c'era il cambio di inquadrature e tutto quanto. Però il gioco allora faceva paura, devo dire, faceva paura, cioè nel senso... Sì, no, ma poi per l'epoca secondo me aveva anche dei colpi di scena che abbiamo visto l'altra sera durante la live. Io mi sono messa nell'ottica del 92. Ho detto, cioè, per l'epoca stava troppo avanti, ci stavano dei pezzi che sono rimasta stupida io nel 2021, non me lo sarei mai aspettata, e dico: pensa, nel 92 questo pezzo, cioè, come uno può essere rimasto proprio senza parole quando l'ha visto. Quindi stava molto avanti, assolutamente. Sì, che poi considera anche un fatto importante, che il gioco era di per sé difficile, in più la giocabilità era terrificante, soprattutto se avevi un PC vecchio, e quindi andava anche più scattoso, più lento, era proprio impraticabile. Eppure alla fine la pazienza e la buona volontà magari lo portavi a termine. Io non ho mai finito, devo dire la verità, ma proprio perché a un certo punto avevo brutto i coglioni, cioè, deve vedere sto scemo che sembrava che vabbè, insomma. Sì, noi abbiamo giocato anche con la donna, quindi con lei ancora era peggio, ancora più strano, esatto. Il verso che faceva, onestamente. Esatto, non lo so, sai, ma adesso me lo vado a cercare perché non l'ho mai guarda quel pezzetto quando la colpiscono di seguito. Guido, pare un po' brutto, signorina. Scusi, pare un po' brutto. Tu non ci hai mai giocato, Leo? Quindi, no, al primo no, però ho provato quello lì che dicevo per PlayStation. Però, mo che mi avete detto che non è la prima versione. Però sto guardando un po' di screenshot e devo dire che, come dico, chi conosce i miei, il gergale che utilizzo sul mio canale, è parecchio crudo, devo dire. Sì, sì. E è dura, è un po' uno di quei giochi che appartengono a quel periodo in cui c'è stato un salto tecnologico gigante, tipo in 10 anni, e poi hanno cominciato a essere più piccolini, perché i giochi del 2000 oggi parecchi sono invecchiati sufficientemente bene, sono giocabili, e invece alcuni del 90, specialmente quelli del primo 90, sono abbastanza crudi. e questo penso che farei difficoltà a giocarlo, non essendoci, non avendo un collegamento personale, okay, col gioco, perché certo, quei giochi con cui sei collegato riesci comunque, che ne so, chi ha giocato Ultima Online specialmente, ci gioca ancora oggi e riesce a digerirlo. Io per esempio Ultima Online, avendo provato tutti gli MMO possibili e immaginabili, l'ho provato a giocare, però ho detto regà, non ce la posso fare, non riesco proprio, cioè sti pupazzi, come si muovono, le animazioni, tutto quanto, non riesco, con tutto il fatto che per esempio Ultima è un bellissimo gioco a livello tecnico. Beh, però la grafica poi alla fine si fa sentire, dai. Però da un punto, sì, quello non dobbiamo, però da un punto di vista anche strettamente di antropologia del videogioco, se proprio vogliamo utilizzare termini a casaccio, no? Così proprio buttamole lì. E secondo me comunque come ha fatto Deb va sperimentato, perché è un tassello importante in un momento in cui il videogioco stava veramente evolvendo. Lì è stata un'era di grande rivoluzione da quel punto di vista, perché la ricerca del 3D per proprio nella funzione anche più cinematografica del videogioco, che poi è diventata un must. Oggi, bene o male, i videogame moderni, insomma, hanno una forte connotazione cinematografica, non soltanto dal punto di vista visivo, ma proprio anche dal punto di vista della progettualità. Oggi, se vai a vedere i titoli di coda di un videogame AAA, tipo che può essere The Last of Us, ad esempio, il blocco di persone che lavorano sono molto compatibili proprio con le maestranze del cinema. Quindi c'è proprio questo tentativo, c'è sempre stato, no? Ma dai tempi di Zack McCracken, Monkey Island, no? Cioè, nel senso, comunque, vabbè, lì era Lucasfilm addirittura, quindi figurati. Però in generale l'evoluzione del gioco narrativo da quel punto di vista ha sempre cercato di andare verso quella direzione. E vedere Alone in the Dark, secondo me, è un passaggio comunque importante, anche se, ribadisco, era difficile da giocare allora, oggi è, secondo me, per come siamo abituati ai giochi a cui siamo abituati a giocare, un gioco quasi ingiocabile. Poi non so, Deb, come vi siete trovati voi, insomma, mentre che... Beh, io ho visto che il mio ragazzo si era abbastanza spazientito. Stava sbloccando. Anche se noi siamo comunque fan dei retro games entrambi, mm-hmm, e quindi abbiamo già giocato a vecchi giochi dove non c'era un tutorial, non sapevi che dovevi fare, non si capiva, cioè, non c'era niente che ti guidasse, come adesso sono molto guidati invece i giochi. Cioè lì ti buttava lì nella storia, vai, sei libero, fai come ti pare. E però il vero problema, secondo me, è stato soprattutto farlo spostare, cioè in modo molto quasi di legno nel muoversi, no? Oppure, che ne so, il colpire lo zombie, cioè è 3 secondi prima che lo colpisce, intanto sì, lui sì, ti ha già colpito 10 volte. Sì, sì. Cioè non siamo più abituati alla lentezza, secondo me, di questa giocabilità dell'epoca, che è la cosa che dopo un po' ci fa spazientire, perché dice colpisci, che cavolo, dai, e invece sta lì ancora. Sì, no, poi quello era un gioco particolarmente. prima di chiudere vi faccio allora la domanda, il gioco, partendo da te poi Leo, più ingiocabile e brutto che avete giocato nella vostra vita? Allora, di giochi brutti un po' ne ho giocati e non credo, mancano mi viene mai. Sempre vengono sempre in mente due avventure grafiche. Una è Simon the Sorcerer 3D, che io ho amato tantissimo il primo e il secondo. Sì. Ma la versione 3D è di un brutto, oltre che graficamente c'ha questo 3D. Schifo, sì, sì. Cioè brutto, fatto male. Ma io non riuscivo bene a capire che dovevo fare, cioè mi ricordo soltanto che era una cosa inguardabile veramente. E un altro gioco che è brutto, però alla fine mi sono comunque divertita, perché è un gioco italiano, mi dispiace onestamente, però è quel brutto che però tende così tanto al trash che da una parte è un po' un capolavoro, onestamente, cioè il capolavoro un po' del trash, mi sono divertita tantissimo, che è Anna Capri The Dream, non so se lo conoscete. No, dai. Che c'è, no, Capri, no, e Anna Capri The Dream. No, no, lo conosco, ma no, ti dico, no, non è trash e basta, senza capolavoro, dai. Però è così trash che diventa quasi un capolavoro del trash, capito? Cioè quel gioco che tu lo guardi e fai oddio, è orrendo, però poi ridi perché fa ridere la scena. Quindi mentre lo giocavo comunque mi sono divertita. Cose che invece in Simon the Sorcerer 3D ho solo schifato e basta, insomma. Certo, quindi certo. Anna Gabri, c'è stato anche un lungo lavorone perché sono tutte foto, cioè quelli si sono fatti tutta l'isola di Gabri. Sì, le registrazioni audio, sì, sì. Passo per passo a fare le foto di ogni singolo spostamento, quindi c'è stato un lavorone dietro, però il risultato è una cosa un po' divertente, onestamente. E Leo? Ma io voglio stringere un po' il cerchio perché devo dire, allora, di giochi poco giocabili o con brutture niente male, ne ho giocati tanti, parlavo prima di Dragon Age 2, Pathfinder Kingmaker è stato un altro che, mamma mia, veramente era, non so, pasta cotta due minuti, proprio super crudo, specialmente prima che patchassero era una roba veramente pessima, c'erano tooltip che non ti spiega, non erano, c'erano i tooltip vuoti, tu, te non so, ti avvelenava un nemico con qualche roba che durava 24 giorni, 24 riposi, tu non sapevi che diavolo fosse, andavi a mettere il mouse su per capire che cos'era, era vuoto il tooltip, anche ti diceva che diavolo era, non sapevi come si curava. Però per stringere il cerchio vorrei metterci solo i giochi che non solo hanno delle cose, dei problemi a livello di giocabilità, quindi degli impacci, diciamo, ma che proprio sono ingiocabili, cioè che sono talmente rotti e frustranti, perché la frustrazione può venire da tante fonti diverse. Certo. Quindi talmente rotti e frustrati, perché anche Cyberpunk è stato frustrante all'inizio un po', però comunque po' nonostante tutto era scorrevole, però riuscivi a finirlo in un modo o nell'altro, magari c'era qualche glitch, qualche bug, si rompeva qualcosa, ogni tanto volava qualche NPC, ti scoppiava la macchina a caso. Vabbè, queste però sono successe alcune. Successe tante pure su Fallout. Sì, beh, ma anche Skyrim all'inizio, insomma, ce ne sono alcuni che stanno ancora lì, giganti, se prendi una martellata da un gigante ancora decolli, non è mai cambiata, non l'hanno mai fissato, ormai è diventata una feature del gioco quello. Però diciamo che quello che proprio, oltre che essere buggato e inizialmente ti faceva ridere e poi dopo un po' era talmente rotto che smettevi di ridere e dicevi ok, voglio il refund perché questo gioco fa cagare, è stato come si chiama? No Man's Sky. No Man's Sky è stato proprio l'apoteosi della frustrazione quel gioco, cioè non sono mai stato così frustrato e così preso male per aver speso 50 euro, no, 60 euro mi sa che era al lancio, 60, se non ricordo male, una presa male veramente infinita, non sono mai stato così deluso dall'aver speso i soldi in vita mia, veramente avrei preferito mangiare in un ristorante scrauso dove faceva tutto schifo, l'avrei pagato più volentieri. Esatto. Guarda, purtroppo devo dire che sono d'accordo con te, perché io gli unici due giochi che ho comprato nella mia vita, anzi tre giochi che ho comprato nella mia vita al day one, sono stati Fallout 3, The Last of Us e No Man's Sky, quindi per me è un 2-1 fondamentalmente, e nonostante tutto io No Man's Sky lo attendevo talmente tanto, mi aveva talmente intrippato anche l'idea, l'atmosfera, questo viaggio nella galassia, il fatto che potevi esplorare da nomi ai sistemi solari, no? Che alla fine ho iniziato a giocarci veramente di brutto. Solo che dopo 7, 8, 10, 15 ore di gioco cominciavi a rendere conto che non c'era un cazzo dentro. Cioè il gioco era vuoto fondamentalmente e tu dici ma che cazzo sto facendo? Cioè dopo un po' ti rompi le balle perché dici vabbè, mo succederà qualcosa prima o poi, incontrerò qualcosa di... E invece no, era tutto uguale. Perché invece gioco che è diventato meraviglioso adesso, cioè 2 anni fa lo hanno iperpacciato, l'hanno riempito di cose. Io vedo anche il mio amico Marco Gualdi che salutiamo, insomma, di Runtime, sempre che lui praticamente ci gioca ancora e adesso è un gioco veramente interessante, insomma, si vanno a fare veramente tante cose. Comunque va bene, dai ragazzi, questo è, però mi interessava sapere, perché comunque le puntate sui giochi brutti che abbiamo fatto nella nostra vita, insomma da 10 anni a sta parte, sono state sicuramente quelle più divertenti, perché poi uno non ci pensa ma poi ti vengono in mente e ne abbiamo giocate le zozzerie, nel senso che come diceva anche René Ferretti, insomma quanta monnezza abbiamo fatto in vita nostra, insomma, che alla fine è quello che ci contraddistingue, anche se non è colpa nostra, perché noi magari l'abbiamo fatto in buona fede. Sei d'accordo, Deb, suppongo, no? Insomma, sì certo. Però monnezza ce n'è stata tanta e tanta ce ne sarà, prove di fede, no? Eh? qualche prova di fede anche, magari, che ne so, MMO morti, che uno prova, dice vabbè dai, ci sono tre persone sul server su Steam, da tre persone che giocano, proviamolo, e uno fa quella prova di fede, poi loga e dice ok, ecco perché è morto. Però nonostante tutto, insomma, se ne provano tante, e spesso e volentieri, insomma, sono, a volte sono divertenti, però ecco, io non so se anche per te, Simo, anche per te Deb, ci sia stato proprio quel gioco che non solo faceva schifo, ma era proprio così rotto che ha fatto mettere le mani nei capelli per quanto era improponibile. Ecco, forse l'aggettivo giusto è proprio improponibile, ingiocabile. Quasi. Ma guarda, io ti dico, poi sentiamo anche Deb, così poi andiamo a chiudere, che quando, cioè nel senso all'epoca dell'Amiga, diciamo così, o anche successivamente dopo la morte di Amiga, che comunque i giochi su PC cominciavano ad evolvere, essere anche gran bei giochi, e non esisteva il concetto dei patch, di internet col quale poter risolvere il problema. Il gioco usciva più massimizzato possibile, cioè i giochi uscivano ottimizzati al massimo per quelle che erano le potenzialità del team di sviluppo e per quello che erano poi le capacità del gioco stesso, quindi capitava rarissimamente. Eppure succedeva anche, perché non è che non succedeva, in quel caso quando tu compravi il The Game Machine in edicola col CD, dentro magari c'era la cartella patch dove a volte c'erano delle patch per dei giochi. Però in generale, negli ultimi 15 anni, secondo me, i giochi escono proprio perché devono uscire, cioè perché a un certo punto mettono una deadline sulla data di pubblicazione, il gioco esce e alla fine magari tra quando esce e tutto quanto, questi già hanno sviluppato una patch perché già devono mettere le pezze sulle cose che già sanno che non vanno nel gioco, no? E io mi ricordo uno degli Assassin's Creed in particolare, no? Che tu camminavi per strada, a un certo punto il personaggio cadeva nel vuoto dallo scenario, andava fuori schermo, quindi cioè, nel senso, cose ne abbiamo viste, delle cose brutte, insomma. Deb, scusa. Ma guarda, onestamente non, cioè, che mi ha fatto così impazzire perché era ingiocabile, boh, non è che mi è capitato che ci siano stati dei glitch, degli errori, delle cose non chiare spesso, ma proprio da starmi a strappare i capelli perché non era ingiocabile, non mi viene a mente, onestamente. Però sì, come hai detto te, comunque all'epoca uscivano i giochi, erano quelli, dovevano essere fatti bene. Adesso, sapendo che comunque vabbè, tanto poi esce la patch, aggiustiamo tutto, fanno uscire il gioco, se c'è da cambiarlo fanno cambiare e basta, insomma, c'è meno dettaglio al day one, secondo me, perché dici vabbè, tanto se non va bene si può aggiornare. Invece all'epoca Amiga e Company, quello gioco era così e basta, cioè lo tenevi, quindi il gioco doveva essere fatto bene. Sì, sì, sì, infatti, perché poi era praticamente è quello, assolutamente impossibile, no? Cioè nel senso, in certi casi impossibile poterci mettere delle pezze, anche se a volte anche su Amiga forse un paio di giochi col dischetto d'aggiornamento era uscito, qualcosa del genere, insomma. Però in linea di massima era praticamente impossibile questo tipo sì. Di discorso. È vero, anche oggi i giochi, rispetto ai tempi in cui un gioco stava all'interno di un dischetto da 750k, oggi i giochi sono talmente immensi che è anche virtualmente impossibile che non ci siano dei difetti. Il problema è che per la fretta di uscire dice intanto li facciamo uscire, poi dopo ci mettiamo le mani sopra, insomma. Questa è la cosa che a me fondamentalmente dà più fastidio, anche perché io comunque i 60 sacchi te li do subito, certo. Insomma, cioè quando parliamo dei giochi magari AAA, però a volte queste cose succedono anche nei giochi indie, che la cosa mi fa ancora più infastidire, perché in teoria dovrebbe essere un approccio un po' più virtuoso da quel punto di vista, insomma, no? Cioè, nel senso, allora da che cosa ti distingui? Solo dal fatto che costi di meno, insomma, no, non dovrebbe essere così. Vabbè, comunque ragazzi, io direi che intanto vi saluto fra un poco. Prima di tutto ricordo a tutti coloro che ci ascoltano che domani mattina alle 7, dalle 7 alle 8 come sempre, ogni giovedì ci sono io con Buongiorno un cazzo, la mia trasmissione bellissima con la quale vi faccio iniziare bene la giornata, anche se non ho ancora un tema preciso della giornata di domani, poi vedremo assolutamente. Domani sera alle 21.30 ci siamo noi con i compagni Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiolo e Davide Gatti nella nostra bellissima trasmissione Quando eravamo futuro, quindi raccontiamo il mondo degli anni 70 e 80 visti un po' anche con gli occhi di questa generazione. Parleremo del Subbuteo, che penso pochi di voi conoscono, insomma, ma vedrete insomma che sarà interessante come puntata. E poi vabbè, tutto il resto della programmazione di Runtime, che ricomincerà poi ovviamente lunedì. E vi ricordo che invece la trasmissione Disordinati Informati, che di solito va il sabato alle 8:30, alle 9:30, sarà spostata la domenica, perché Michela ha un corso di aggiornamento il sabato. Perché fa dei corsi di aggiornamento il sabato? Io non lo so e non mi interessa. Detto questo, vi ricordo insomma di andare sempre sulla pagina www.rantameradio.it se vi interessa, vi fa comodo, vi fa piacere, siete così gentili. C'è il pulsante Anche Io, dove potete fare una donazione costante su Patreon o una donazione, una tantum su PayPal, se volete, perché ricordate che Runtime, per quanto gratis caruccia sia, comunque ha dei costi di gestione dal punto di vista proprio della struttura della piattaforma anche che utilizziamo, anzi delle piattaforme, perché chiaramente c'è lo streaming e c'è il podcast, sono due cose distinte. Se non volete, non fa niente, tanto noi tiriamo a campare lo stesso, e ringraziamo tutti coloro che invece già un po' un aiuto ce l'hanno dato. Ringrazio veramente molto, mi ha fatto veramente tanto piacere, era tanto tempo che ci pensavo di invitarla, però poi sai, sempre un po' così che arrivi oh, che vuoi venire al podcast, oh, ma che vuoi, ma chi te conosce? La nostra carissima Pixel Deb. Grazie a voi, è stato molto divertente. Bellissimo, grazie. Vedi che eri preoccupata, no? Oddio. Sì, no, perché è la prima volta, capito? Come ti ho detto, la prima volta ho sempre un po' paura, dico oddio. Esatto, poi dopo ci prendi gusto, dopo, insomma. Esatto, è vero. E ringrazio e saluto oramai un caro amico, dai, chiamiamolo così, dai, facciamo. Grazie a te, sempre un piacere, grazie a tutti. E poi grazie per aver sbloccato il ricordo del Subbuteo, che è qualcosa di spettacolare. Grande. Era un sogno da bambino il Subbuteo, nonostante io sia un po' più piccolino. Beh, il Subbuteo è una cosa particolare, come racconterò domani sera. C'era anche il discorso che qualcuno magari era incapace a giocare a Subbuteo, e allora il Subbuteo assumeva un'altra dimensione, che è quella del collezionismo, che poi è una cosa un po' particolare, anche se bisognava avere lo spazio dentro casa per poter fare queste cose, ma come un po' i Lego e tutte le altre cose insomma dell'epoca. Bene, grazie Leo, grazie Deb, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, che non so minimamente, come ho detto, insomma, questa è una puntata un po' occasionale, e voi restate lì che fra poco vi vengo a salutare, aspettate solo un secondo che gli diamo di sigla finale, sempre se riesco ovviamente a far ripartire il tutto, e va bene ragazzi, ciao e buonanotte a tutti. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.